fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è dubbio. Siamo tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sarei contento, caro David, sarei molto contento di quello che è accaduto oggi, dove gli elettori, anzi che gli elettori, i pochissimi iscritti al blog di Beppe Grillo, che Grillo ha avuto 9 milioni di elettori, gli iscritti a votare per vari argomenti sono 80.000, cioè una minoranza della minoranza della minoranza, di questi 80.000, 24.000 credo hanno votato oggi per dire ai deputati e ai senatori come votare a loro volta, pensa un po' che delirio, sull'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Ebbene, questi presunti elettori grillini, gli iscritti a votare dentro al blog, la base, ma quale base? La rete. Ma è una buffonata. Ma certo. Hanno detto sì all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Oh, malissimo per me, malissimo. Contraddicendo il capo, il guru. Ma il guru ha detto decideranno gli altri. No, ma il guru legheggiava. No, leghizzava. Leghizzava, sì. Di cui parli tanto, ci abbiamo detto. Beh, allora, che vuoi che sia iscritto? Io allora che cosa sarei? Iscritto al Ku Klux Klan, secondo te, allora? Tu io, sei io vorrei tre potenziale razzista italiano, ben pensante. Ma io voglio tipico. Ma quale ben italiani pensante? Brava gente, tipico. Ma io voglio tre reati tipico. Di immigrazione clandestina. No, uno, ne voglio tre, voglio le torrette con i mitra. Ma come? Io voglio le torrette con i mitra. Sì, li voglio il filo spinato. Ma da mettere dove? Ma lei ha presente come hai fatto lo stivale? Non mi interessa, non devono arrivare navi qua, non devono arrivare navi qua. Quello che è arrivato. Ecco il boso della radio. Ma ecco, non devono arrivare boso. Navi. Io voglio le mitragliette. Ma non le si può dire. Come in Spagna. Come in Spagna. Come in Spagna. Io qui poi c'ho una persona qui che saluta qui che poi ti presenterò se mai. Adesso fai ridere. Detto da Minzolini, già direttore del TG1 e poi deputato. Comunque gli elettori del Movimento 5 Stelle, presunti elettori del Movimento 5 Stelle, una minoranza della minoranza, sì. Dicono ai parlamentari quello che devono fare. Ma questa è democrazia o una parvenza di democrazia? Comunque sulle torrette che tu volevi mettere, il professore che ho qui al mio fianco, di solo quello, senza, di solo quello che hai pensato. Chi cazzo meglio c'è i, accanto? Meglio i? Come? Meglio i sottomarini, ovviamente. Bravo, bravo. Ma com'è meglio i sottomarini? Lascia stare, sono per abbattere le navi, per affondare le navi. Ma io non voglio affondare le navi, le voglio affondare vuote, come dice Lutwak, che le voglio affondare lì nei porti dove sono prima di partire. T'ha fregato, t'ha scavalcato a te. Ma meglio che, scavalcato meglio Marino. Ripetilo un attimo, professore. Con la gente a bordo. Io voglio non uno, tre reati di immigrazione clandestina. Cioè si deve, bisogna che sia chiaro ai trafficanti, ai clandestini, che in Italia illegalmente non si può entrare. Comunque, così la pensa pure Grillo in realtà, sentiamo qualche Grillo d'antan. Non qualche è detto Grillo che d'antan. Sia una cosa intelligente, anzi, intanto proprio su questo sono lui. D'accordo con lui. Se i marocchini vengono qua a rompere i coglioni, a ubriacarsi, a rompere vetrine, o vengono qua e rispettano le regole, sono fuori dai coglioni, io sono esatto. Ma no, momento! Però, vuoi dare una passatina a un marocchino che rompe i coglioni? Lo prendi, lo carichi in macchina, senza che ti veda nessuno. Lo porti un po' in caserma e poi gli dai magari due schiaffetti, lo fanno, tanto lo. Ma in mezzo alla strada non è possibile! Oggi con un telefonino fanno succedere un casino, l'immagine di quel telefonino li è andata a un miliardo di musulmani! Sono coglioni! E li vedevano col telefonino! E questa qua volta se ne uscì Grillo anche su Kabobo. Ve lo ricordate, Kabobo? In Germania lo fanno, che in Germania lo fanno, prendono il marocchino, calcino, lo riempiono di botte nelle prigioni della Merkel, è evidente, no? Lo fanno tutti. Non c'è un paese in Europa o al mondo che c'è uno con un piccone sta lì delle ore e non succede niente, ammazza tre persone ed è un clandestino. E allora se parli dei clandestini, la sinistra ti dice subito che sei un razzista. Non si siede a un tavolo e ti dice: ma come cazzo è che c'è un clandestino qua? Vai un po' negli Stati Uniti a fare il clandestino negli Stati Uniti. Vabbè, poi naturalmente... però questo voto online da parte di poche migliaia di persone, che è una cosa ridicola, patetica, non è che la democrazia si può fare in questo modo, diciamo la verità, lo dico con, cioè, con anche dai, con lettore, lo dici, ma che lettore, ma lascia perdere, sempre ricordare, ma tu mi vuoi mettere un timbro addosso, roba, tu mi vuoi roba. Mettere un timbro che non, che no, per me non hai, esiste, tu hai votato questa roba, vabbè, quando? Comunque lo dico molto chiaramente, mentre Grillo e Casaleggio sono sostanzialmente apolitici, anche un po' di destra per alcuni, per certi aspetti, la piccola minoranza militante in rete dei 5 Stelle sono sinistra. Tutti de sinistra. Beh, certo. Spesso di estrema sinistra. Per cui Grillo cosa chiede online se sono d'accordo o no sul reato di immigrazione clandestina? È evidente, è chiaro che sono contro. Non c'era bisogno di fare referendum online. Vabbè, Alfano è fissato con i gay, eh. Alfano si è fissato con gli omosessuali. Evidentemente secondo lui c'è materia di marketing elettorale, di campagna elettorale. Alfano, se propongono il matrimonio gay, facciamo cadere il governo. Il codice civile, noi siamo pronti a intervenire. Ma se ci propongono il matrimonio gay, noi facciamo cadere il governo, perché non c'è nessun governo che giustifichi un cedimento sui valori. Oh, lo stesso Alfano è un po' grillino quando parla del fatto che in Italia, l'Italia non si deve trasformare in una grande sala parto per gli extracomunitari, che è un po' quello che pensa Grillo, Certo, se lo dice Alfano mi vengono i brividi. Noi siamo assolutamente contrari a che l'Italia diventi una grande sala parto attraversata la quale per un giorno tu diventi cittadino italiano, e abbiamo grandi preoccupazioni per la sicurezza oggi degli però, italiani su oggi cui però, non si scherza. Oggi però, ragazzi, non si scherza. Brambilla rivela. Si è rivista la Brambilla in televisione, a Canale 5, a parlare di animali come al solito. Beh, per forza. Ciao Brambilla, ciao Brambilla. Con una coscia, no, che vabbè, si vedeva. Questi sono dettagli. Vestita sempre in questo modo, no? Un po' scosciata con queste gonne. Ciao Brambilla. Beh, sono dettagli importanti, sì, come uno si fa vedere in televisione. Scusa. Ciao Brambilla. Poi tu dici io guardo sempre le cosce. No, si vedeva. No, perché? Ciao Brambilla. Gli animalisti sono pacifici, i cacciatori volevano spararmi. Vabbè. Che gli animalisti sono per definizione pacifisti, rispettano tutte le creature viventi. Guardate, io ho avuto per tanto tempo i carabinieri fuori casa perché i cacciatori sui loro siti avevano scritto: si apre la caccia alla brambilla, perché io sono contro la caccia, si apre la caccia alla brambilla, si consigliavano le pallottole con le quali spararmi. Vabbè, adesso dai, i cacciatori che minacciano di morte la brambilla, ma è una cosa che fa ridere, dai, fa ridere i polli, tutti minacciano di morte tutti, dai. Invece molto serio quello che è accaduto, cari ascoltatori, cari amici no tab che ci ascoltate, ecco, quello che è accaduto al nostro amico senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, che si è visto recapitare davanti alla porta di casa tre bottiglie Molotov con un bigliettino, sopra il bigliettino c'è scritto: torna in prefettura altrimenti farai boom boom, ora che non c'è più un procuratore Caselli a proteggerti. Spezzoni di filmati in cui viene seguito con falce e martello alla fine, all'inizio dei filmati, numero di telefono. Questi filmati sono stati spediti via mail come minaccia anche a un giornalista della Stampa che si chiama Numa. La solita robaccia. Quello che dispiace è che il senatore Esposito, che è collegato con noi, senatore Esposito, bene. Buonasera. Buonasera, buonasera. E che ha dichiarato oggi in varie interviste che vuole lasciare la politica per queste cose, per colpa di questi quattro. Io li chiamo quattro non perché, come sai, penso che siano meno pericolosi, perché sono una minoranza dell'ultra minoranza, un quattro cialtroni, quattro pericolosi, delinquenti, pericolosissimi, per carità. Quattro, ma ne basta uno per mandare una moto, minacciano persone, non solo te ovviamente, anche chi si batte a favore della, legittimamente a favore della costruzione della ferrovia, della TAV, e tu vuoi lasciare la politica, ma non è possibile. Ma io, guarda, io ho fatto semplicemente una riflessione che non ha nulla di politico, ha semplicemente guarda quello che vivo io a casa mia, e purtroppo, sai, questo stillicidio continuo è un elemento di tensione. A un certo punto uno deve guardare in faccia la propria moglie e i propri figli e dire: ma questa passione sta diventando un po' pericolosa. E le passioni, come sempre, devono venire dopo le cose importanti. E io, ma tua moglie ha paura? Ma mia moglie è una persona forte, di grande disponibilità, e lei mi dice sempre che ma non ti preoccupare, andiamo avanti. Però sai, io adesso sono venuto a Roma, sì. Per quattro giorni loro sono, è da sola, si smazza due figli, sono una figlia di tre mesi. Con la scorta? No, loro per fortuna hanno una scorta, poi adesso ci sono, passeranno, diciamo, le pattuglie. Io ho casa mia, sembra Fort Knox, ci ho messo sei telecamere, l'antifurto, sono collegato a una centrale di sicurezza. Hai pagato tutto, insomma, tu? Sei tutto io. Tutto io. Cioè, quanto hai speso per tutta sta roba di sicurezza a casa tua, tipo Fort Knox, che dici? Che ne so? Ho speso più di 10.000 euro. Cioè difendere la TAV ti è costato 10.000 euro? Ma io, per carità, lo faccio, l'ho fatto. Stamattina di quest'ora mi ha detto: abbiamo bisogno di integrare, ci penserà il ministro degli interni? No, ci penso io, se devo mettere ancora con una telecamera la metto, non è questo. Ma però pensi di pagare una scorta a tua moglie per non metterla? No, io, guarda, io non sono il tema. Una scorta privata, che ne so, una guardia del corpo. È che è il clima, capisci? Perché stamattina alle 7:15, quando il vicino ha suonato, io stavo cambiando il pannolino a mia figlia, ha aperto mia moglie. Alle 8:10 sono uscito di casa, come quando sono a Torino, sì, faccio tutte le mattine, sì, con la scorta sotto casa, la macchina blindata per portare mio figlio, sì, che ha 6 anni e mezzo. Mi ha detto: papà, ma perché c'è tutta questa gente? Ma cosa sono queste bottiglie? Ma chi ti vogliono far male? Sai, a un certo punto, infatti io non è una cosa che ho detto in senso polemico nei confronti di qualcuno, è che a un certo punto privatamente devi ragionare, no? Io non vivo. Ma chi sono i mandanti? Secondo te, soggettivamente, chi ha messo questo biglietto? Innanzitutto, c'era scritto solo quello nel biglietto? Ma il biglietto era un biglietto che più o meno, cioè, il senso era questo: Caselli è andato in pensione, sì, Bersani è in rianimazione, Chiamparino non tornerà. Non ho capito se il riferimento è al fatto che io sono tra quelli che ha detto in queste... Beh, non tornerà, sembra invece che voglia tornare, comunque vabbè. Io me lo auguro proprio, forse era riferito al fatto che ho sostenuto la necessità di candidare campione della regione, dicendo: quindi i tuoi etichetti non ci sono più, sei solo, tornatene in prefettura, la scorta non ti può proteggere, altrimenti fai bum bum. Ma la cosa che adesso... Ma che significa tornare in prefettura poi? Perché io sono un dipendente della prefettura. Ah, ok. Cioè torna a lavorare in prefettura, non rompere più i coglioni, non fare più politica, non ti occupare più della TAV. Cioè. Ma adesso io a te posso dire pienamente cosa c'era scritto nel post-scriptum. Dimmi. C'era scritto... Allora, io, devi sapere, giovedì, sì, il giornalista della Stampa Massimo Numa, sì, che abbiamo citato prima, che venerdì mi ha telefonato, mi dice: senti, volevo parlarti. Io ho detto: guarda, vieni a casa mia. È arrivato a casa mia, tieni conto che anche lui è scortato. Sì, lo so. Sono sceso, c'è un giardinetto di fronte a casa mia, ci siamo seduti sulla panchina e lui mi ha fatto vedere il video, sì, in cui è venuta fuori oggi. Una cosa terrificante quel video, Gianni, io lo voglio dire. Cioè, quello è un video che gli è stato mandato, dove è certificato che per 3 anni lui è stato pedinato, sì, ripreso. Ma possibile che nessuno se ne sia accorto? No, sai... Io l'ho visto, il video, quando esci dal lavoro era seguito a casa, e poi la moglie che andava a fare la spesa, e lui che andava a spasso con il cane, no? E cioè, nei momenti anche privati, inquadrata a casa sua, fatta vedere la via, le targhe delle macchine, cioè, capisci? E nel bigliettino c'era scritto: ah, ti abbiamo visto insieme a Numa seduto al giardinetto, sì, quello è il posto dove ci piace vedervi, no? Ah, ho capito. Cioè questo era il post-scriptum nel biglietto, cioè andate ai giardinetti in sostanza. Esattamente, e quindi vuol dire che, come dire, ci hanno visto ai giardinetti, ma una cosa del tutto normale, no? Cioè, però vuol dire che qualcuno vi segue. Ancora a casa, un grande stabile. Siamo qui 800240024 La Zanzara con il senatore Stefano Esposito, Partito Democratico, che ha ricevuto delle minacce gravissime da parte di estremisti notav, noi li chiamiamo così. Tu come li chiami questi qua? Cioè, secondo te chi sono quelli che ti hanno depositato le bottiglie? Si sanno nomi e cose? È possibile mai che in Italia nel 2013 o 2014 tu sai che io nella tua trasmissione li ho fatti i nomi e cognomi, cioè questi sono io li ho sempre definiti mafiosetti, delinquenti mafiosetti. Perché sai, chiamarli terroristi li nobiliti pure, perché gli dai anche, loro forse pensano, sperano, no, di emulare quegli altri matti che abbiamo vissuto negli anni 70. E questi sono secondo me un gruppuscolo non più di 50 che usano la TAV. Infatti guarda, anche chiamarli no TAV ormai è diventato retorico, cioè questa è gente abituata che pensa che bisogna dare il giro allo Stato, che bisogna colpire, no, quelli che la pensano diversamente da loro, e usano questo strumento. Ma possibile mai che questo gruppuscolo di non più di 50 non si riesce con tutti gli strumenti che abbiamo oggi, antiterrorismo, Digos, poliziotti, eccetera, a prendere? Io penso che la polizia e la procura abbiano fatto azioni pesantissime, tra l'altro di oggi la notizia che i quattro che erano stati arrestati per finalità terroristiche sono stati lasciati in galera anche dal tribunale. Sei contento? Ma no, guarda, in galera non mi piace mai vedere nessuno, però sicuramente se un ulteriore grado di valutazione la magistratura ha deciso di tenerli dentro è perché ci sono elementi importanti. Insomma, allora, secondo te si sanno i nomi e i cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie Molotov? Tu li conosci? Materialmente no, chi sono i mandanti, però guarda, è troppo facile, ma guarda, basta leggere continuamente tutti quelli che continuano a difendere questo modo di fare. Tipo? Cioè, ci sono libri, pieno di librerie di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica, che basta leggerlo. C'è uno dei mandanti, secondo te? Uno dei mandanti morali? Ma io non voglio definirlo mandante, guarda, non lo faccio, sai perché? Perché già c'è un processo civile che mi ha intentato chiedendomi 100.000 euro di danni solo perché ho scritto che suo figlio passa il suo tempo in Kurdistan e scrive i reportage del suo stare in Kurdistan con quelli del PKK, mi ha querelato dicendo mi ha querelato, la querela è stata penale, è stata archiviata. No, però scusa, allora, quando tu parli di mandanti delle Molotov, a chi ti riferisci? A chi ti riferisci? Livio Pepino, e poi? A questa gente, mi iscrivo a gente come Pepino che invece di prendere le distanze scrivono dei libri per attaccare Caselli. No, che fa che reprime questi fenomeni. Poi? Penso a tutti quegli artisti, no, che sventolano sui loro palchi le bandiere notav senza sapere di che cazzo parlano, scusami se per esempio non me li ricordo, facciamo nomi e cognomi, sennò la gente non capisce, tutti quegli artisti non me li ricordo. Guarda, c'è di tutto, dalla Fiorella Mannoia arrivando a quell'altro che adesso mi sfugge il nome, il capellone pugliese che piace tanto ai giovani, Caparezza. E tutti qua, tutti Dario Fo. No, tutti, cioè ognuno è diventato come una maglietta della Lacoste, ti ricordi che te lo dissi in un'altra trasmissione un po' di mesi fa? Sì. È un bellissimo, non sanno un cazzo, non sanno niente. Per cui si può dire, no, però è importante dire questo qua. Le Molotov le hanno lasciate, i politici, per esempio, anche nel tuo partito ci sono mandanti delle Molotov? No, ma non è un problema, guarda, io non penso a mandanti, io penso a una mandanti cosa, morali. Sì, c'è gente che non si rende conto che si può avere, è giusto avere un'opinione diversa, giusto? Beh certo, ma non ci mancherebbe altro. In democrazia ci mancherebbe altro, cazzo. Ma figuriamoci, ma siamo i primi, Ma quando tu... Anch'io ho dei dubbi ogni tanto. Ma ti sei sentito protetto dal partito, ad esempio, abbracciato, protetto proprio dal PD, ma, da tutto guarda, il PD, No. Guarda, del PD non mi far parlare, ti posso dire questo, te la dico così, io non sono notoriamente uno che ha votato Renzi. Renzi ha le sue opinioni sulla TAV, poi insomma... Però no, posso dirti, ecco, almeno uno come Renzi, senza infingimenti, ha sempre detto... Con noi, con i violenti, non stiamo con la polizia. L'avessero detto tanti dei miei colleghi che si sono fatti dei giri in Val di Susa, no? Per prendersi una cazzo di intervista e senza mai dire una parola No, sul fatto che certo sono contrari senza sapere di che cosa parlano, no? Perché poi arriva qualcuno, dice: ah, se non facessimo la... Ma da Renzi non ti è arrivato nessun messaggio di solidarietà oggi? Mi ha telefonato tra i primi stamattina. Ah. Mi ha telefonato tra i primi che sì. mi hanno telefonato sono stati il capo della polizia, sì. il questore di Torino, sì. e Angelino Alfano e Matteo Renzi. Questi sono stati i primi a telefonare. Quindi Alfano prima di Renzi. Vabbè, Alfano ha una posizione storica. Ministro dell'Interno, ministro dell'Interno. Ministro degli Interni, quello ha le informazioni prima. Però quello che voglio dirti, Renzi. Troppa gente pensa di potersi strappare un'intervista, un po' di visibilità, no, facendo i notav. E purtroppo Civati non ti ha chiamato, No, Civati non mi ha chiamato, ma mi sarebbe suonato strano il contrario, devo dire. Anche lui ha partecipato a questa a questo. Lui si è fatto la campagna congressuale, no? Val di Susa. Poi sai, è vero che se gli... poi Civati si arrabbia se io dico queste cose, ma Civati è vero che dice sì, bisogna essere contro la violenza, ma no, non c'è un cazzo, perché ormai la vicenda Torino-Lione è un fatto di, come dire, finita in mano a un gruppuscolo che ha distrutto il movimento. Chiamiamolo popolare, sì, no? Sì. Di opinione, e si è impadronita completamente. Senti, ma tu hai paura di essere ammazzato? No, non ho paura di essere ammazzato. Ho paura di della tua famiglia, di vedermi demolita una già difficile, come dire, gestione familiare, perché quando lavori fuori casa per 4 giorni alla settimana. Ma hai paura di essere, che ne so, gambizzato, di avere che la tua... No, io no, quella paura lì non ce l'ho, anche perché devo dire, mi sento protetto e tutelato dallo Stato. Non, da questo punto di vista non è questa la preoccupazione. Però pensi davvero di lasciare entro questa legislatura la politica? Cioè di metterti da senatore? Guarda, se me lo chiedi adesso ti dico di sì, ma non in questa legislatura. Ma io tornerò nei prossimi giorni. Giovedì sera prenderò il weekend, vorrò farmi una chiacchierata con mia moglie. Ma dai vinta a questi qui, però. Perché lei giustamente mi ha detto: ma stai tranquillo, non ti preoccupare. Però la dai vinta in questo modo? La dai vinta a questi qui, a questi teppisti? Guarda, la do vinta. Vabbè, l'adoro vinta, però nella vita ci sono cose importanti e cose che possono essere... ma non si può tornare in prefettura, per carità, con tutto il rispetto alla prefettura. Beh, bisogna dare battaglia ogni giorno contro la violenza. Guarda, non contro le idee, perché chi è contro la TAV va benissimo, alla grande, anch'io ogni tanto ho dei dubbi, ma sono le bestie violente che sono protette da quelli, da quelli che si proclamano a parole pacifisti che vanno combattuti. Questo è il punto. Io, guarda, sono 13 anni che faccio questa battaglia, quando nessuno sapeva neanche che cazzo era la Torino-Lione, va bene? Nessuno sapeva, io ho 13 anni. Adesso a un certo punto, oggi sono veramente sconfortato, è inutile che te lo neghi. Cioè, poi magari domani ci dormo sopra. Senti, ma circola su internet già la versione, su come le Molotov della Diaz, Vabbè, ma questo, certo, ma questo ti dimostra... No, con chi cazzo ci abbiamo a che fare, no? Cioè te le sei piazzate tu, qualcuno dice te le sei piazzate tu le Molotov, in sostanza, o te l'ha messa qualcuno per inasprire poi, no, la repressione poliziesca nei confronti dei notav. Questa è la versione che circola e che comincia a circolare già in questo movimento, no? Ma questo, sai, questa situazione qui è una situazione che si è già verificata nelle altre circostanze, no? Anche Baselli probabilmente si faceva le scritte da solo sui muri di Torino. Oppure Numa si è fatto i filmati da solo. Ti devo lasciare, ripensaci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ormai è tutto degradato. Beh, caro professore, quello che dico anch'io, è tutto degradato, è tutto finito. Basta sentire quello che ci ha detto prima il senatore Esposito su queste minacce assurde, le 3 Molotov lasciate davanti a casa tua da questi imbecilli, estremisti, delinquenti, dei notab. Torna in prefettura, altrimenti farai boom boom, ora che non c'è più il procuratore Caselli a proteggerti. E che mi dici di Sua Sanità del Sannio, come la chiama Repubblica, la signora De Girolamo, la nostra amica De Girolamo? Ecco, bravo, aspettavo che infatti lo dicessi. La nostra, bisogna dichiararlo, nostra amica De Girolamo. Sì, è vero, come ma il signor Boccia. Sì, ma non facciamo sconti, una come al solito. Paroline di troppo la ministra. Paroline di troppo. Sì, vabbè, ma è stata intercettata di troppo. Ma è stata intercettata illegalmente, è stata registrata illegalmente. sì, e non so se illegalmente proprio, ma è come se uno che ha già i suoi problemi con la giustizia ti mette un registratore lì, e quindi, ti registra, e quindi no, cioè, ma ti registra nel merito, ma adesso senza entrare nel merito di chi torna a casa con il camion, senti, e quant'altro, che non gli interessa a me del Ministero dell'Agricoltura non me ne frega nulla, anzi per me andrebbe soppresso il Ministero dell'Agricoltura, come decisero gli italiani con un referendum, peraltro, per cui a me non me ne può fregare di meno delle dimissioni, sì, o ma no, lei non si occupava di agricoltura, però delle cosette che tu hai citato, ma qualche anno fa era una deputata del PD, del PDL, e si occupava secondo me impropriamente di bar familiari, sì, ma sbagliatissimo, vagamente improprio, sbagliatissimo occuparsi, però se la politica ha in mano le ASL, in mano la sanità locale, è normale che se ne occupi una come la De Girolamo. Poi non deve fare la santarellina, perché di sottopotere locale se ne occupava anche lei, evidentemente, o chi per lei se ne occupava. La cosa che sì, mi fa l'apertura o la chiusura di un bar dentro un ospedale non può dipendere da un deputato. Hai capito? Questa è la questione, perché come direbbe Taormina è tutto degradato. Questo è il punto. Guarda. Oh, ma vogliamo ricordare il mitico Gino che è intervenuto alla Zanzara la settimana scorsa, che si è dichiarato cugino di Vincenzo Mollica? Sì, ha fatto questo appello struggente. Sentiamo. Mollica è mio cugino. E perché è uno stronzo? Che male ha fatto? Che ha fatto di male? Perché lo cerco da una vita per raccontarle la mia vita, cosa mi è successo, e non si fa trovare. E perché non si fa trovare? Perché è un coglione, perché è un laureato. Lo sai cosa dicono qua in Liguria? Quando a merda monta un skate, a spissa. Questo detto, questo adagio, diciamo, questo aforisma. Vincenzo, ti prego, ho lasciato il mio numero telefonico. Posso darle il mio numero? Sì, dallo. Vincenzo, se mi senti, ascolta, 336, comunque ce l'avete anche voi lì. Dai, vai. Allora, ripeto, 336, sì. 2527, sì. 50. Sì. Gino, Baroni Gino, c'ho la fotografia, io e lui a casa della zia Gina, lì in via Raffaello Sanzio. Sì. No. Caro Mollica, giornalista del TG1, che deve fare allora? Del TG1, sì. Che mi deve contattare, che voglio raccontare la mia storia. No, ma è cugino diretto, non sto dicendo che cazzo me ne grande. Diretto, è figlio del fratello. Mia mamma. Mio papà la chiamava la donna della Baroni Cesira. Sì. Aveva un seno pieno di latte, veniva lì a Milano. Ma questo però che particolare. Cioè, ascolta, Cruciani, Davide. Ascolta, mia mamma veniva lì a Milano a dare il latte ai bambini dei ricchi. L'appello di Gino, presunto cugino di Vincenzo Mollica. Non ricordate, no? Quel signore un po' grosso, sì, che da anni racconta il cinema, l'arte, le canzoni per il TG1, Vincenzo Mollica. Chiamami Vincenzo, sei mio cugino e non mi rispondi mai. Sarà vero? Boh, adesso ci proveremo. Dimmi, che c'è? No, dico lei che gli ha fatto raccontare tutti i gradi di parentela di questo signore, dando vie, indirizzi. Sì. Risentendo. Sì. Molto pacatamente, perché lunedì e siamo all'inizio settimana. Che cosa ci frega a noi dei parenti di questo Gino? Detto con tutto il rispetto, della mamma, del latte, e che al latte. Chi se ne frega, si può dire? No, mai, rispetto, mai, mai. Grande TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Colloquio al Quirinale tra Renzi e Napolitano. Letta non esclude il rimpasto e dal Messico. Sono ottimista, risolveremo i problemi grazie ai nuovi leader. PD e 5 Stelle, De Girolamo chiarisca. Il marito, Francesco Boccia, del PD, dice chi sbaglia paga, ma decide la magistratura. Fa quadrato il nuovo centrodestra. Vincono i sì al referendum online lanciato da Grillo sull'abolizione del reato di clandestinità, ma molti militanti lamentano il mancato preavviso. L'Aquila, direttore di Confcommercio, si barrica dentro Equitalia per la crisi dei negozi dopo il terremoto. È una strage degli innocenti, dice al TG3. Marchionne, sulla nuova sede Fiat deciderà il consiglio d'amministrazione a fine mese, ma gli Stati Uniti offrono molti vantaggi. Tutta la produzione Alfa rimarrà in Italia. A sorpresa, la grande bellezza di Sorrentino vince il Golden Globe, premio che spesso anticipa gli Oscar. E lui ringrazia l'Italia, paese folle e bellissimo. E la sconfitta col Sassuolo fa sprofondare il Milan. Esonerato Allegri, la neopromossa squadra di Squinzi, numero uno di Confindustria, umilia i campioni di Berlusconi. Zanzara! C'è una giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Oh, il signor Cota, presidente della regione Piemonte, pro tempore sembra, perché forse si rivota. Vediamo se gli organi amministrativi italiani, che dopo vari anni, quasi 4 anni, ci hanno fatto la grazia di decidere sulle schede elettorali, anzi su alcune liste elettorali, eccetera, ci mandano a votare oppure no, mandano i piemontesi a votare oppure no. Vediamo se si sbrigano stavolta, no, con i ricorsi. Dice che quella delle mutande era una bufala, quella delle mutande verdi, no? Sì, colpa della segretaria che l'ha messa in nota spesa. Sentiamo, è una serie. Quindi secondo lei la questione famosa delle mutande comprate è una faccenda... Quello io l'ho già spiegato, è una bufala assoluta, perché poi ce la rispieghi allora. Non è neanche stato oggetto di rimborso perché la contabilità è stata rettificata. Ma che mondo è questo? Che vuol dire la contabilità è stata rettificata? Ce l'ha messo sto scontrino o no? Sì o no? Vabbè, se annullano siamo in Corea del Nord. Beh, su questo io sull'annullamento sono a spada tratta a favore della posizione della Lega. Non va annullato il voto in Piemonte, ormai no. Niente. Se si annulla il voto bisogna annullarlo nei primi mesi, altrimenti andate a fare in culo. Guarda, se le regole fino ad oggi ma sono lascia queste, perdere le regole. Ma come lascia perdere? Ma sei un bel tipo però anche tu, scusa. Ma allora no, ma conterà un organo terzo in questo che ha sbagliato? Vabbè, tanto è inutile tardi. Con te parlare, è inutile parlare con te. Sei attaccato a questa cosa, decide la magistratura. Ma che vuol dire? Ma ti credo. Sono attaccato a che cosa io? Sì, a qualsiasi chiedere... cosa decide no, il TAR va bene, no, qualsiasi cosa decide il Consiglio di Stato va bene. È uno scandalo che dopo 4 anni abbiano deciso. Dico, ma a questo, questo punto che cosa bisogna fare? Ignorare la sentenza? Questo dici? È questo il paese che tu hai in mente? Certo, assolutamente. Dove si ignorano le sentenze? Ma che dove vuol ci dire se ne ignorano la sentenza? Di tu? E quindi che si fa? Il TAR ha detto che è illegittimo. Che si fa? Vai in piazza, incatenati con le mutande di Cota. Legati con le mutande di Cota alla mole antonelliana. Quello no. Sì, quelle mutande verdi oscene di quel colore verde. Ma non faccio il cretino, no. Non faccio il cretino. Tra l'altro... Dove è finito il busto di Almirante? No, tra l'altro, perché anche questa è una questione aperta. Pare che sia a casa di Boccia l'hanno trovato. Come, il busto di Almirante a casa Boccia? Cioè, ma già hanno tanti problemi lì a casa dopo Boccia. Dopo che è scoppiata quella vicenda lì... Della De Girolamo? Hanno trovato... Sì. Il tavolo della cucina sì. Aveva sotto per stare in piedi... questa è una segnalazione che è arrivata dal condominio. C'era il busto di Almirante che teneva in piedi il tavolo, perché dalla rabbia pare che la ministra abbia buttato un pugno sul tavolo dicendo dannata ASL. Si è rotta il tavolo e hanno messo per tenerlo su il busto di Almirante. Pare di una statua, cosa se ne fa uno? Ma lo usa per tenere sul per tavolo, tenere il tavolo di casa Boccia. Io lo dico una statua. Poi una statua invece poi di un Cota, busto vabbè, è una capito. Statua signora. Sentiamo Salvini che dice solo in Italia e in Corea del Nord si sovverte il voto dopo 4 anni. Vabbè. Vai cercarne un altro. Una vergogna. Una vergogna. Solo in Italia e in Corea del Nord dopo 4 anni il libero voto dei cittadini viene ribaltato. Solo in Italia e in Corea del Nord. Però non ci rassegniamo. Marco se n'è andato in un ritorno. Novità su Pannella! Novità su Pannella, amico mio! Ha fatto una prolusione, un discorso lunghissimo, un discorso fiume. Tutte queste cose, perché non dormi, non hai. Aspetta, un discorso fiume per il 67° anniversario della fondazione del Partito Socialdemocratico, ti giuro. Partito? Socialdemocratico. Non è vero. Quando l'ha fatto? Un altro giorno, l'11. Non è possibile. Ti giuro, per la fondazione del PSD, del PSD di Nicolazzi. Cosa pazzesca, dai. Un discorso lunghissimo di cui non si capiva nulla. Non si capiva niente, ti giuro. Ma secondo te, a uno che sta tornando a casa, gli interessa di Nicolazzi? E paghiamo noi, eh? E paghiamo noi. E paghiamo noi. E paghiamo noi. E paghiamo noi. Nicolazzi delle mutande di Cota. Fatelo dire tutta, guarda. Meglio una prolusione sul signor Nicolazzi, che non so neanche più se è vivo o morto. No, è morto, credo. Beh, vabbè, credo. Mi dispiace, ma mi dispiace. Credo. Meglio il SD. Dai, su. Senti, sì. Senti, a un certo punto ha detto americano con la K e Branson un delirio, senti. È questo in continuità con il nostro essere stati, essere americani col K o io israeliano, non c'è star K, ma peggio, sono 20 anni, 40 che sento lì, e chi lo manco è ebreo, per lì è un servitore israeliano e via dicendo. Vabbè, queste sono cose. Tutto questo al 67esimo anniversario della fondazione. Però questo ha un senso. Sì, sì, però era il 67esimo anniversario della fondazione, sì, del PSD, ti volevo segnalare. Guarda che è vivo, Nicolazzi. Da quattro mesi. Scusami, scusami, allora, perdono. No, chiedo scusa alla famiglia. Da quattro mesi i dipendenti radicali non ricevono lo stipendio. Me l'ha scritto Antonello Sanna in questo momento. No, ma. Nicolazzi è vivo. È da... del 24, eh. Marco è impazzito. Da quattro mesi i dipendenti radicali non dicevano così. Ma sti cazzi, ma che ce frega a noi? Tutti i nostri compagni dipendenti della nostra impresa o partito transazionale, via dicendo, da quattro mesi non possono ricevere il salario. E non siamo in questa, e siamo in queste condizioni, eccetera. Poi a un certo punto dice: ti giuro che il simbolo dell'Internazionale Socialista è nostro, ti giuro. Il simbolo dell'Internazionale Socialista. Però. Dai! Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece sa boccia, sa brucia proprio addosso a me. No! Vai via, detto, spostati! Clandestini! Clandestini! Fabio! Fabio! Via adesso! Venite qua, coglioni! Una città di merda! Io dico una cosa, no? Uno può anche essere contro il ministro Chieng, tutto quello che volete, ma che vai a fare per strada sabato pomeriggio per protestare contro la presenza della Chieng? Parolacce, i centri sociali mobilitati, basta. Ma le hanno fermate quelle persone, spero. Ma anche gli altri cognome. Ma perché non ho capito, non si può. Preso nome e cognome. Perché dovrebbero prendere nome e cognome? Prendere nome e cognome. Nome e cognome con la carta d'identità, la prendi, li porti anche 10 minuti in questura. E perché, scusa? Ma hai sentito la violenza di quelle parole? Sì, ma non si riferivano alla Chieng, si riferivano a quelli che facevano la contromanifestazione. Ah, quelli che facevano la contromanifestazione. Ah, ho capito. Ma poi invece sabato proprio da Samme. Saranno contenti gli animalisti. Dunque, saranno... Vedi, la cosa incredibile. Aspetta un è che no, perché questo lo devo dire. Questo Dimmi. Ministro che non ha fatto assolutamente nulla. Perché, guarda, adesso fammelo dire. Questo ministro non ha fatto nulla. Però è simpatico semplicemente perché ha un problema che è di colpa. Per me non è un problema, anzi è un valore aggiunto. E lo sta facendo diventare simpatico a tutta Italia. E non sta facendo, cioè, anziché prenderla in castagna per quello che non fa, cioè lo ius soli, più diritti, più case agli immigrati, tutte cose che io vorrei, ad esempio, subito smantellare i campi rom e dargli delle case. Pensate sì, come sì, stai sì. messo. Tutto, siccome però di tutto questo purtroppo non fa, di tutto questo, risulta anche simpatica perché la contestano solo perché è di colore. Questa è la vergogna. Intanto un cacciatore texano vince all'asta il diritto di abbattere un rinoceronte, $350,000 in Namibia. Gli ambientalisti sono infuriati. La caccia al rinoceronte. Tu vorresti partecipare alla caccia al rinoceronte? No, mi occupo di... non mi interessa. Beh, bellissima questa cosa, la caccia al rinoceronte. No, la trovo anche sciocco, stupido. È stupenda anche questa cosa qua. No, la trovo completamente idiota. Cacciare come gli elefanti, rinoceronte. La trovo una cosa... Per $350,000 si può abbattere un rinoceronte. Ma mi sembra da malati, guarda. Mi sembra perché? Da malati. Non ho capito. Quelli che giocano perché a poker adesso... in maniera compulsiva che fanno? Non sono malati? Tutto ciò che è compulsivo è malattia. Ma ovviamente, ma fare la caccia, cioè pagare quella cifra lì per fare la caccia al rinoceronte. Al rinoceronte nero in Namibia, sì. Ma mi pare una cosa per abbastanza stupida. Fulvio da Bologna, buonasera. Buonasera. Dimmi. Come sta, dottor? Sto bene finché non la sento. Quando comincio a sentire che si sente male, non si sente nulla, lei è in viva voce, mi incazzo come una bestia. Io la sento benissimo. Lei è in viva voce oppure col non so con che aggeggio, con che marchingegno? No, io la sento benissimo. No, la sento male. Filippo da Firenze. Eccolo. Buonasera. Mi dica. Buonasera. Ho sentito la prima parte del vostro programma e volevo sottolineare un punto che lei ha sottolineato, ma fino a un certo punto, cioè essere contro la TAV non significa essere per le minacce. Ma l'abbiamo detto mille volte, ma l'abbiamo detto cento milioni di volte, come glielo devo ripetere? No, non me lo ripete a me. E la domanda che giustamente fa lei è perché non si riescono a identificare. Io ho 50 anni e ho una piccola azienda, quindi non sono certo uno che va in giro a rompere le gambe e o altro, ma uno, cioè, il fatto che ci sia questa tensione sociale in qualche modo andrà ricondotto da qualche parte. Ma quale parte, tensione sociale, scusi? Qual è la tensione sociale di cui lei parla? Quella contro la TAV, cioè una parte. Ma non c'è nessuna tensione sociale, ma quale abbastanza rilevante? Ma chi l'ha detto? Ma chi la sostiene? Lasci stare gli imbecilli, lasci stare. Ma non è vero, non è vero. I 50 violenti, perché non riescono a essere identificati? Mi sembra un po' parallelamente quello che succede nel mondo del calcio, no? Dove ci sono 50 imbecilli in una curva, guarda caso, tutti abbondantemente schedati, nominati, identificati, e guarda caso non si riesce mai a pizzicarli, o no? Si può darsi, ma che c'entra la rivolta sociale? Qui non c'è nessuna rivolta sociale. No, ho detto rivolta sociale, ho detto che in quel pezzo lì di Piemonte c'è questa tensione, no? Ma non c'è nessuna tensione, ci sono gruppi di estremisti che vogliono mettere in discussione attraverso la violenza, gruppi di estremisti che attraverso la violenza la vogliono mettere in discussione decisioni prese da governi democraticamente eletti, che piacciono o non piacciono, appunto. La posizione contro la TAV è questione di estremisti. Ma no, contro la TAV, quelli che buttano le bombe, quelli che minacciano, quelli che vogliono sfondare i cantieri. Per gli altri c'è la possibilità di fare manifestazioni pacifiche sempre. In Italia è il paese delle manifestazioni, in Italia è il regno delle manifestazioni. Quindi io che abito a Firenze, non sono mai stato in Val di Susa, e che secondo me la TAV è una grandissima cazzata. Benissimo, lei ha la possibilità di votare i partiti che si oppongono alla TAV. Non è che si può mettere in mezzo alla strada fino all'infinito, punto e basta. Ma si figuri, tra l'altro vorrei veramente come dire, abbracciare simbolicamente questa persona che, cioè, bene, dire, ottimo. Marco da Parma, grazie. Marco da Parma. Pronto? Dimmi. Buonasera. Sì, mi dica. Grazie per l'ospitalità e per farci divertire. Dammi, vai. Allora, volevo intervenire sulla vicenda Piemonte, parlo della decadenza del governatore, perché senz'altro è eccessivo il fatto che si aspettino 3 anni e mezzo per risolvere questa questione. Ci vorrebbero 3 giorni e mezzo in un paese normale per contare delle magari liste. 3 giorni e mezzo no, ma al massimo entro 6 mesi si deve decidere se le liste solo sono state contare delle firme, ma non i voti. L'Italia è il paese dei ricorsi, si può ricorrere fino all'infinito, il TAR, il Consiglio di Stato e poi forse qualcos'altro, Strasburgo, è il regno dei ricorsi, basta, non però se ne può più abolire TAR e Consiglio di Stato subito. Siccome qualcuno ha comunque frodato per essere eletto, comunque qualcuno della sua compagine, questo signore dovrebbe pagare. Ma questo è già stato condannato? È già stato condannato in sede penale? Le nuove elezioni, non dovrebbe essere condannato. Ma questo a non si ripresenterà. Non, quello della lista giovine. Della lista ma le giovine. Elezioni chi le pagheranno? Italiani o questo signore della lista giovine? Che ora andiamo a affrontare delle spese. Io non ho capito che cosa dovrebbe fare. Dovrebbe pagare le nuove elezioni? Che vuol dire? Tanto certo, ci sarebbero state. Ha commesso il dolo, ma ci sarebbero che dobbiamo rivotare, ma no? Ci sarebbero state tra un anno le elezioni, non dica però stupidaggine. Che vuol dire? Ci sarebbero state fra un anno, ma perché nessuno deve mai pagare in questo paese? Ma quello che ha fatto la lista sbagliata, firmando lui al posto degli altri, presentando firme false, fatto per sbaglio, è già stato condannato. Vabbè, tu che cosa sospetti? Che cosa sapeva? Non che cosa sapeva? Qui, per la stessa cosa, la Bresso è stata condannata, certo. Una lista per la Bresso e nessuno ha pensato di cancellare le elezioni. Guarda, che io a differenza non è che ragiono siccome Bresso sinistra, quell'altro Lega. Guarda, a me non me ne frega niente di Gota. Pare uguale. A me non me ne frega niente falsificare di falsificare le firme, è vero che l'hanno fatto tutti, ma quando vieni tanato paghi. Benissimo, questo ha pagato, ma anche torni al voto di che cosa? Ma chi l'ha detto? Antonio da Napoli. Fino a quando c'è questa regola? Pronto. Antonio da Napoli, non c'è nessuna regola. Io capisco le regole, Antonio da Napoli. Regole, eccomi. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera a tutti. Senti, io per quanto riguarda questo schifo, vergogna della regione Piemonte, mi ricollego a quello che ha detto quello prima. Cioè, il problema è questo, che c'è stato un falso, quello che c'è stato, bisognerebbe annullarlo, punto. Questa è la prima cosa. La Lega si schiera sempre contro gli altri, conto per tutto, per gli scandali, per le mutande di Code, è sempre il colpo, parla di colpo, parla di colpo. Allora io voglio dire questo, c'è stato qualcosa che non va, bisogna annullare, loro si devono fare una ragione, non sono niente. Ma chi? Tutto? Ma chi? La Liga, non sono la Liga non sono niente, sono zero, perché si schierano sempre a favore dei cazzi loro. Per quanto riguarda il Sud, sono contro il Sud, sono contro questo, contro quello, però per le cose loro vanno sempre a favore. Adesso parlano di colpa, ma quale colpa? Se c'è un c'è stato un falso, c'è stato un falso, è stato accertato dalla magistratura. Sì. Vabbè, abbiamo allora capito, Antonio. Fernando da Como, dai. Dimmi. Senti, io ho una soluzione per i problemi delle barche che arrivano. Attenzione. Si potrebbe ricaricare il numero doppio di quelli che arrivano, dei nostri, così tornano le barche giù là, noi ci liberiamo di questi qua e arrivano della gente che ha voglia di lavorare e di rinnovare l'Italia. Non ho capito niente, qual è la soluzione? Allora, no? Quando arrivano le barche dalla Libia, no? Sono 230, ecco, mettiamo su 460 abitanti del sud. Cioè? Così, cioè noi mandiamo via quelli che non hanno voglia di lavorare e teniamo quelli che hanno voglia di lavorare. Lei dice rimandiamo i terroni indietro? Esatto. Perché ascolti, io le dico una cosa: su 100 chilometri di spiagge in Emilia Romagna, di fronte a una fogna, un mare, una fogna, delle persone lì ci hanno costruito il futuro suoi e dei suoi figli. Quelli hanno la Sicilia, il più bel posto al mondo, dove si potrebbe fare turismo, agricoltura, e non si fa niente perché è abitata da quella gente lì. Dunque, che dovremmo fare? Accogliere gli immigrati che vogliono lavorare e cacciare i meridionali? Lei questo problema. Bravo, esattamente. Bravo, ha capito giusto. Bravo. La stupidaggine del momento. Ma occhio, però, non alla pari, arrivano 2.30, ne mandiamo via 4.60. Certo, ha fatto anche i conti. Sì, ha fatto i conti, Ha fatto i conti, bravo. Sì. Ha fatto i conti. Accogliere gli immigrati che vogliono accogliere gli immigrati che vogliono lavorare e cacciare i meridionali. E via i terroni, dai, carica tutto. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene, vi voglio bene. Mettiamo Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Grandi casini intorno a Stamina, intorno alla cura Stamina, caro Parenzo. Notizie che si accavallano. Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. C'è in omaggio lo stregone Rasputin. Testimonianze di gente che dice di aver pagato per nulla, di aver pagato Bannoni e altri dirigenti del metodo Stamina. E soprattutto quello che ha raccontato Andolina, ex candidato di Ingroia Rivoluzione Civile in Friuli Venezia Giulia, numero 2 di Stamina, il quale dice: abbiamo praticamente dato la cura ad alcuni dirigenti della regione Lombardia prima degli altri, perché in questo modo ci siamo aperti la strada alla sperimentazione a Brescia. I raccomandati prima dei pazienti, prima dei bambini. È con noi Davide Vannoni, presidente di Stamina Foundation. Buonasera. Buonasera, grazie della bella presentazione. Vabbè, quello è successo negli ultimi giorni. Sono i fatti per ora, Qua no brutte, commenti. Notizie. Per lei bruttissima, si mette sembra, male, no? Vannoni. Tremende. Allora, però mettiamo un po' d'ordine. Intanto c'è stata una gran confusione e devo dire anche molte notizie false, ma proprio palesemente false sui giornali. Per esempio, falsa qual è? I pazienti di Brescia hanno pagato. Nessun paziente di Brescia ha mai pagato un centesimo. Vabbè, lasciamo perdere però i pazienti di Brescia, non di Brescia. Questa cosa di Andolina, quello che ha detto. Però questa parte qua dei soldi è importante, perché io l'ho dichiarato pubblicamente e sempre. No, ma è vero che lei di Brescia ha pagato. Lasciamo perdere Brescia allora. È vero, torniamo ai soldi, partiamo dai soldi. È vero che lei ha ricevuto 47.000 euro, quello che è 50.000 da una famiglia che poi si è lamentata perché non era successo niente, la situazione sanitaria del figlio non era cambiata? Non è vero. E le dirò come riuscirò a dimostrarlo. Allora, intanto partiamo da una cosa. Partiamo che questa famiglia si riferisce a delle terapie che ha fatto Nicola De Matteis, si chiama, quello che ha parlato oggi anche alla stampa. Sì, De Matteis. questa famiglia è stata curata, ha fatto una terapia per la bambina nel 2008, dove fece due iniezioni, sì, a San Marino, quindi con cellule prodotte a San Marino da una società di San Marino, sì, quindi non c'entra niente con Brescia, niente. Ma li mandò lei, li mandò lei lì? Sì, io l'ho sempre dichiarato che allora, nel 2008, alcuni pazienti avevano pagato, altri erano stati trattati gratis. Guarda caso, stanno intervistando sempre i soliti quattro che hanno pagato. Però, e quelli gratis scusi non scusi un attimo, nessuno. È vero che lei ha chiesto 47.000 euro a questa famiglia? Sì, questa o no? Famiglia non ha mai pagato 47.000 euro per la terapia. Beh, mai. Questo dice che mi sono indebitato per 47.000 euro, mi hanno fatto fare... No, si sarà comprato qualcos'altro, non ha pagato 47.000 euro per la terapia. Quindi dice il falso, cioè che si è comprato dice questi soldi? Non lo so, dovrebbe chiederglielo a loro, anche perché c'è un'altra cosa importante. Cioè, quanti soldi ma perché pre... un malato scusi, dovrebbe dire così? Quanti soldi ha preso da questa famiglia lei? No, io non ho preso un centesimo e ve l'ho sempre detto. Io non ho mai preso una lira. Quanti soldi ha pagato una società, sì, e credo che abbiano pagato qualcosa sotto molto al di sotto dei 30.000 euro. Molto allora, al di sotto dei 30.000. Ma lei e non ha niente a che fare con questa società? Sì. Non ha quote. Ma questa società fu costituita con i biologi russi quando non arrivò il finanziamento italiano e venne con costituita lei a San Marino. Dopodiché una ma c'è anche non lei tra i soci. Un dividendo, costruì il laboratorio per produrre le cellule e trattò pazienti gratis e pazienti a pagamento, a seconda del fatto che di chi che? Poteva pagare pagò e chi non poteva pagare non pagò. Scusi Vannoni, questo... lei è no, socio, ma facciamo a capirci, è socio di questa azienda o no? Di questa società ero socio, sì sì. Vabbè, no, allora, per cui i soldi indirettamente arrivavano anche a lei? Indirettamente i soldi arrivavano anche a lei? No, perché non ho mai preso uno stipendio e non ha mai fatto dividendi. Vabbè, insomma, a qualcuno questi erano i biologi che lavoravano. Ma questi soldi... È una società che ha campato un anno, poi non ha più fatto nient'altro. Il tempo di costruire un laboratorio e produrre le cellule per i pazienti. È vero o no che Andolina disse al padre di questa bambina o bambino, Nicola De Matteis... faccia prostituire sua moglie e poi gli attaccò il telefono in faccia? Io però le chiedo una cosa, lei prenda basta andare in Google e digitare Marino Andolina e vedere che cosa ha fatto nella vita. Quello ma nuovo questo non c'entra niente, uno può essere anche un santo, può essere a anche curare gratis i bambini leucemici sotto le bombe, ha costruito un centro di trapianti in Iraq sotto i bombardamenti americani. Le dubito che possa mai aver detto una cosa di questo genere a una famiglia. Tra l'altro, questa sera, in parallelo all'intervista della famiglia, sì, pubblicheremo sul sito Prostamina, sì, i filmati con le interviste di questa famiglia e con i certificati medici dei risultati che ha avuto questa bambina con le prime due infusioni che fece. Cioè, ha avuto dei miglioramenti all'epoca? Lo vedrete dal filmato. Cioè, loro dicono, che la bambina non ha avuto alcun miglioramento. Esatto. Io consiglio veramente a tutti di guardare l'intervista fatta alla madre. Lo sapranno anche loro se la migliorata. Scusami però, scusi professor Vannoni, se i diretti interessati dicono che non hanno avuto nessun beneficio o sono completamente pazzi, perché è gente completamente matta. Ma sì, nel senso che secondo lei sono matti i genitori? Vede, io le faccio una domanda di questo tipo. Allora, queste due persone fanno due iniezioni nel 2008. Dicono di non avere fatto nessun beneficio e poi fanno richiesta per incominciare le cure all'ospedale civile di Brescia. Allora sono pazzi che non hanno nessun risultato e poi chiedono di fare le cure. Adesso perché parlano in questo modo? Lei dice che la bambina ha miglioramenti. Il bambino o la bambina innanzitutto di questi Matteo? La bambina ha miglioramenti. Questo però miglioramenti parla molto molto evidenti. Ho capito, ma questi qua oggi dicono che lei è un imbroglione. Scusi un attimo. Dicono che io sono un imbroglione. Va bene. Ma ho capito, ma c'è qualcosa che non dirlo, quadra se tutto andasse bene, non capisco. Siete bravi a dirlo, è vero, c'è qualcosa che non quadra. No, ma lo chiediamo a lei però, professore. E le dimostro. Ho capito, ma siccome i genitori di questa bambina dicono che la bambina non ha miglioramenti, non ha miglioramenti, e parlano di lei come di un imbroglione, lei ci sta dicendo invece abbiamo i filmati in cui la bambina è migliorata. Non solo, ci sono anche le analisi, per esempio il deglutigramma, che fa vedere che la bambina ha ricominciato a deglutire, non sono solo filmati. Ma di quanto tempo fa? I filmati non sono una prova. Ma di quanto tempo fa questi dati? Di adesso? Di quando ha fatto la terapia, prima che la facesse e a 40 giorni dalla seconda infusione. E comunque lei nega che siano stati versati 47.000 euro? Assolutamente. Ma poco meno di 30.000? No. Sì. Vabbè, però... e la questione di coso? La questione invece dei raccomandati? È vero o no? Allora, che avete privilegiato i primi due pazienti trattati a Brescia? Sì. Le prime due persone che fecero l'infusione sono di Luca Merlino, che è il dirigente regionale che aprì non le porte di Brescia, diciamo l'apertura che Stamina arrivasse in Lombardia. La seconda persona trattata in contemporanea, perché fecero il prelievo lo stesso giorno, è la piccola Celeste Carrère. Mm. Quindi non sono Celeste Carrère non è raccomandata da nessun politico. Qui allora lei si deve mettere d'accordo col suo vice, però, o comunque con la persona. Io non so cosa. Io ho visto che sono state riportate delle cose che lui ha detto. Ha detto che lui i primi malati. Non è stato riportato quello che ha detto realmente. Io le dico che come funzionava Brescia, prima di prendermi la sua di Ciandolina. Sì. Brescia funzionava così. Ogni mese si presentavano 3 pazienti, e questo è avvenuto per 4 mesi, perché 12 pazienti sono stati presentati in tutto. Ogni mese si presentavano 3 pazienti, 2 li presentava l'ospedale e 1 lo presentavamo noi. Nel mese successivo 2 li presentavamo noi e 1 lo presentava l'ospedale. Sì, però dopodiché, quelli che abbiamo presentato noi sono quelli che ci hanno fatto le richieste, e sono praticamente tutti bambini o anche un adulto, ma però dico, il suo vice ha detto il suo vice ha detto una cosa diversa. Ha detto che per ottenere il via libera alla sperimentazione a Brescia sono state date cure gratis sostanzialmente ad alcuni dirigenti della sanità, in particolare questo Luca Merlino, affetto da una malattia degenerativa. E lui stesso l'ha dichiarato. Vede che c'è già una cosa che non funziona, perché le cure gratis sono state date a tutti a Brescia. Nessun paziente a Brescia ha pagato un centesimo. D'accordo. Mai. Ma è vero o no? Allora, smentisca Andolina, non è vero che grazie a questi raccomandati abbiamo ottenuto il via alla sperimentazione a Brescia. Questo lo dice il suo vice, mettetevi d'accordo. No, allora, il vice ha detto, poi il vice si fa per dire, perché lui è il vicepresidente di Stamina, non è il mio vice personale. Beh, allora, socio, il vicepresidente di Stamina ha detto che ci sono stati, tra tutti i pazienti che sono stati reclutati, alcuni pazienti raccomandati dall'ospedale. Sì. Vero. Ma non è solo vero. Questo. Perché ogni mese l'ospedale ne presentava 2, noi ne presentavamo 1, il mese dopo noi ne presentavamo 2, l'ospedale 1. Quindi questa è la verità ed è anche agli atti di tutto quello che è stato raccolto. Chi presentasse l'ospedale, se poi l'ospedale ha incominciato a presentare parenti dei direttori, sono affari loro. Loro li hanno presentati, scusi, comunque erano persone malate. Non scusi, erano il suo vice Andolina dice, no certo, per carità, dice, ha pensato che potevamo curarlo e ha favorito l'ingresso del nostro metodo negli ospedali di Brescia. Ancora ombre su Stamina, caro Parenzo. Abbiamo con noi il professor Davide Vannoni, presidente della Stamina Foundation. Dicono che lei illude i pazienti, ombre. Specula sulle malattie, gente che si vede un vero e proprio tariffario e non donazioni. No, però è più semplice la questione. Guarda, chiedo al professor Vannoni, se una buona parte della comunità scientifica italiana... Vabbè, ma quella è la questione generale, ma chi se ne frega? No, beh, ma che è fondamentale. Ho capito, però. Ma non stiamo di nuovo a discutere Stamina sì, Stamina no. Ormai... Ma ad oggi però sì, perché ci sono professori di biologia... È vero che a Miami si è bloccato tutto? Ecco. La sperimentazione a Miami, è vero che si è bloccato tutto? Sì, non si farà? Ma sa che cosa sta succedendo a Miami? Pensi, io quello la ritengo forse il più grosso scandalo che oggi è rimasto nascosto sotto le storie spesso inventate che stanno raccontando i giornali. A Miami è successo questo. Camillo Ricordi, il numero uno del diabete al mondo, non in Italia, al mondo, sì, si è reso disponibile a far testare le cellule di Stamina, visto che in Italia dicono che non ci sono cellule staminali, hanno detto i nostri esperti, nel suo laboratorio, e allora? Che è uno dei migliori laboratori per la produzione cellulare del mondo. E dopo che è successo? A Miami. Appena detto questo è stato attaccato in una maniera spaventosa, sì, e sono successe 2 cose veramente preoccupanti. La prima, adesso pare, leggevo sul Corriere della Sera, che a Camillo Ricordi vogliono togliere la direzione del RIMED, di cui è presidente, che è un centro di ricerca in Sicilia che dovrebbe occuparsi di medicina rigenerativa. E questo perché ha detto che vuole provare a testare il protocollo Stamina e dire se è una schifezza o se è qualcosa che ho capito funziona. Ma se la comunità scientifica pensa che lei è un cialtrone e qualcuno si mette col cialtrone, è evidente che questo medico qui poi se la passa male, non è perché... Ma scusi, mettersi cosa vuol dire? A parte che la comunità scientifica pensa di un cialtrone, quelli che lo scrivono si beccheranno anche una bella querela. Lo so che l'hanno anche scritto. Ma scusi, l'hanno scritto un sacco di gente. La gente però... scrive e pensa che lei sia un cialtrone, io non lo penso. Anche perché non ha pubblicato i dati, tra l'altro. non ha mai voluto rendere noti i risultati, quindi le cose sono due, diciamo, no? A un certo punto lei, che ha le strette, dice che l'hanno messa con le spalle al muro, c'ha l'acqua alla gola, pubblichi questi dati, solo che lei dice no, perché se no poi si perde il guadagno, perché eventualmente il know-how, i brevetti, poi vengono, qualcuno me li fotte. No, i brevetti però... non ci sono, ve l'avevo già spiegato. Oh, intanto per chi interessa, punto, per chi interessa tutto. Il pallone d'oro 2013 va a Cristiano Ronaldo, ma chi se ne frega. Bannoni, dunque? No, vabbè, allora, finiamo la cosa di Miami prima, che è più importante. Il giorno, due giorni prima che ci fosse la procedura per far partire le cellule per farle testare a Miami, l'AIFA ha mandato una lettera di diffida all'ospedale dove gli impedisce di mandare le cellule a Miami. Quello era un centro che doveva fare ricerca, dove non c'era Camillo Ricordi che studiava lui le singole cellule nostre, lo faceva un team di ricerca. Vabbè, non si farà, la sperimentazione a Miami non si farà, lo possiamo dire? Non si farà la sperimentazione a Miami, giusto? Chi lo sa? Per adesso è sospesa. A me Camillo Ricordi ha scritto on hold, cioè vuol dire un medico, sospesa. Un collega di Ricordi dice che lei in America sarebbe già stato arrestato. Non mi ricordo chi era, il professor Croce, non mi ricordo chi. Sì, un tale che poi ha dato anche le dimissioni dal Rimed, dove, perché c'era Ricordi. Sì. Vabbè, che vi devo dire? Lascia perdere il commento che si trova. Io, come vede, noi stiamo lavorando dentro un ospedale pubblico. Oggi abbiamo fatto altre due infusioni a due bambini che abbiamo in cura. Quindi Davide Vannoni che... negli USA sarebbe già in galera. Ma lei non le viene voglia di mollare tutto, Vannoni, scusi? No, perché noi stiamo continuando a curare delle persone. Ha paura di finire in carcere? Queste persone abbiamo un obbligo. Ha paura di finire in carcere o no? Ha paura di? Di finire in carcere? Non me ne fotte niente. Ma è possibile, secondo lei? Lì. È possibile che... Cioè, lo prende in considerazione questa idea di finire in carcere? Per le inchieste di Guariniello? Non ci penso, io sto pensando a quello che stiamo facendo, a quello che i nostri biologi stanno facendo a Brescia e le cose che stiamo portando avanti. Scusi, di fronte alle testimonianze della rabbia della gente, ha un processo da fare, sì. Lo farà, e con questo sarà una parte in quel processo che avrà, come sempre, tre gradi di giudizio e nel quale noi avremo l'opportunità di però difendere. Scusi, Vannoni, quando c'è gente che dice Vannoni mi ha rovinato la vita, non è successo niente, ho pagato un sacco di soldi, questa è la rabbia di alcuni suoi di fronte a questi malati che non si trovavano di fronte delle donazioni ma dicono un vero e proprio tariffario, lei come risponde a queste accuse così precise? Cioè, non c'erano donazioni da fare, ma c'erano delle vere e proprie tariffe. Beh, non c'erano donazioni perché non c'era nessuna fondazione Stamina. Stamina non esisteva, quindi si pagava una società di San Marino che produceva le cellule per questi pazienti, con i costi compresi per produrre le cellule e mantenere il laboratorio e pagare i biologi. Quindi si pagava quello. Ci sono anche quelli trattati gratis, comunque, non ci sono solo quelli che hanno pagato. Perché capite che... Quello di Torino, la Bona, dice che con lei ha rischiato di morire. Con me, intanto Vona è andato in una clinica di San Marino, autorizzata dallo Stato di San Marino, dove il primario era il direttore sanitario, era il primario dell'ospedale di San Marino, uno dei migliori primari dell'ospedale di San Marino. È stato seguito, questa persona ha avuto successivamente una crisi epilettica, almeno questo è stato quello che è stato confermato, e poi non ne ha avute mai più, ma le cellule staminali non fanno venire le crisi epilettiche, come hanno spiegato diversi medici che hanno valutato il caso. A questa persona è venuta, che aveva e ha un danno cerebrale importante, è venuta una crisi epilettica. Parenzo, tu porteresti tua figlia o qualcuno, tuo figlio, per te carità, stesso, a curarti dal professor Vannoni? Diciamo me stesso, diciamo. Guardi, me stesso. Mai. No, mai. Chiedo a Parenzo. Mai, Vannoni, sa perché? Sa perché mai? Mai? Perché io purtroppo sarò un ingenuo, sarò un coglione, sarò un cretino, ma credo ancora nelle cose che vengono testate e verificate dalla medicina ufficiale, dove ci sono ancora quelle commissioni, dove ci sono ancora quei principi. Perché io quello che le voglio chiedere è questo: al di là della giustizia, lei forse dovrebbe aver paura della rabbia dei suoi pazienti, che se qualora un domani dovessero scoprire l'inutilità della cura saranno incazzati neri. Di questo Guardi, dovrebbe aver paura lei, secondo me. Intanto i pazienti che sono in cura a Brescia sono tutti molto contenti dei risultati e ci hanno difeso un milione di volte a fronte dei risultati e degli esami. Comunque la cosa più incredibile che lei dice è che, per esempio, la testimonianza che oggi c'è sulla stampa e forse stasera anche a presa diretta di questo De Matteis, cioè che la bambina sta bene mentre i genitori dicono che sta male. E questa è la cosa incredibile. Secondo lei sta bene? Io, guardi, stasera io pubblicherò il link dove potranno vedere la verità. Ma ho capito, ma la sanno loro la verità? La vedono la bambina? Lei dice non hanno i test clinici, non hanno i dati. Allora perché sono così, come dire, sarebbero pazzi ad andare a dire ai giornali, esatto, che lei è un cialtrone, un imbroglione, che hanno versato dei soldi inutilmente, che la bambina sta peggio e non c'è nessun miglioramento? Perché fanno questo? C'è un complotto contro di voi? Questo hanno detto. Guardi, questo bisognerebbe chiederlo a loro, non deve chiederlo a me. Scusi, se si dovesse scoprire, le faccio l'ultima domanda, Baroni, se si dovesse scoprire tra qualche mese, tra qualche anno, sì, che è tutto un imbroglio, lei che cosa fa? Si ammazza? Che fa? Ma io sto vedendo i risultati sui pazienti, se no non andremo avanti. E lo stanno vedendo i medici, lo stanno certificando tutta una serie di ospedali italiani. Lei che cosa fa? Se si dovesse scoprire e certificare ufficialmente che lei è un ciarlatano, un imbroglione, che fa? Se è disposta io mi sono sempre preso le responsabilità di quello che faccio, se no non l'avrei fatto. Mi prendo le responsabilità come se la sono presa i medici che lavorano per Stamina, come se la sono presa i biologi che lavorano per Stamina. Quindi tutti ci siamo presi delle responsabilità per delle cure, e qua rispondo a quello che mi diceva prima il suo collega, per delle cure che avvengono dentro un ospedale pubblico, ribadisco, gratuitamente, e che sono nell'ambito delle cure compassionevoli. Che cosa vuol dire? Non che queste persone gli abbiamo tolto dei farmaci che gli facevano bene per fargli queste terapie, che non hanno nient'altro se non questa possibilità. Ho capito, non hanno nient'altro. Perché se ci fosse già una cura che funziona per loro e che non li facesse morire, Stamina non avrebbe senso di esistere, perché cosa proponiamo? Una cura non testata di fronte a una cura testata? Scusi un attimo, Vannoni, è vero o no? Non hanno nient'altro, qua c'è lo zero o una cura compassionevole non ancora testata scientificamente. Punto. Questa è la scelta. Fatta dentro un ospedale pubblico. Sì, ma qualcuno dice, tra l'altro il suo vice, che grazie che voi siete entrati dentro questo ospedale pubblico, grazie al fatto che c'è qualche dirigente della sanità malato cui avete dato la cura. È vero o no questa cosa? Ma allora, lo dice il suo vice, insomma, non ha detto drammatica. Quello, lui ha detto che nell'ambito dei 12 pazienti che sono entrati, l'ospedale ha piazzato dei suoi familiari. No, non dice solo quello, dice anche che grazie a Merlino, a questo dirigente della sanità lombarda, sono state date le autorizzazioni per entrare a Brescia. Questa no, perché Merlino ha aperto le porte in regione Lombardia. Appunto. Ma dentro all'ospedale di Brescia le porte le ha aperte proprio Marino Andolina, il mio vice, il quale era molto amico e anzi dice che Fulvio Porta, che era il direttore del centro trapianti, era stato un suo allievo, ed è stato Fulvio Porta insieme a Marino Andolina che hanno detto vabbè, visto che c'è la legge Turco Fazio, portiamo le cure dentro Brescia. Poi le ricordo, a me mi stupisce come si possa portare una cura non ancora testata dentro l'ospedale. Ha fatto la richiesta al ministero, la richiesta all'AIFA, e sono arrivate le risposte positive, è per quello che l'ospedale ha fatto le terapie, non per Merlino, perché se l'AIFA gli diceva no, non si può fare, l'ospedale non l'avrebbe mai fatto. Va bene, Vannoni, lei non mi vuole dire cosa succede se fosse certificato prima o poi che lei è un ciarlatano, cioè, no, che cosa vuole che le dica? Che ne so, che si deve buttare paura della rabbia dei malati, questo io si deve prendo in positivo e in negativo. Quindi se ridate i soldi indietro a tutti, che fate? Ma allora, a tutti quelli che non hanno pagato non so cosa ridargli indietro. No, quelli che hanno pagato, a quelli che hanno pagato. Ho molta salute in più rispetto a quelli che hanno pagato. Allora, la parte dei pazienti che hanno pagato nel 2008 cioè, se lei fosse condannato se lei fosse condannato a condanna a risarcire dei danni, risarciremo dei danni, ma non credo proprio che si arriverà a quel punto, perché la terapia funziona. Va bene, Vannoni. Non è che allora ogni paziente che entra dentro un ospedale pubblico e fa la terapia, cosa viene? Deve essere rimborsato di quello che l'ospedale. Ma non è l'ospedale, è più la rabbia di quei malati che ora stazionano davanti a Palazzo Chigi con la speranza di vivere, perché questo è il punto. Io avrei più paura di quelli, cioè di queste persone che sono lì, che hanno l'unica speranza e che un giorno non sia mai dovessero scoprire che è tutta una montatura. Di quelli io avrei davvero paura. Non so se va bene. Vannoni, grazie, a presto. Bene, soprattutto, vede, però il paragone non è tra loro che sperano di accedere a una cura e quindi non l'hanno ancora fatta, ma tra quelli che sono in cura, cioè i pazienti che sono in cura a Brescia e quelli che invece sperano di entrare. Questa è la grande differenza. Quelli che sono in cura a Brescia sono tutti contenti e sono loro che stanno promuovendo la metodica Stamina, perché stanno avendo dei risultati. Alberto da Torino, buonasera. Eccolo, no, buonasera. Dimmi. Allora, volevo soltanto fare un accenno al che tu, quando parli dell'OTAV, tendi in maniera un po' aggressiva a fare di tutta l'erba un fascio. Capisco che sia un po' il tuo modo polemico, ma in realtà è così. Ne ho parlato 40 milioni di volte. Non sì, ce l'ho. No, ma non devi ripetere. Uno può essere anche contro. Io ce l'ho solamente con i violenti, quelli che vogliono distruggere i cantieri, quelli che occupano le strade, quelli che mettono le bottiglie Molotov davanti a casa di Esposito, quelli che seguono un giornalista, lo pedinano e gli mandano i messaggi mafiosi. Io sono contro questi in maniera. Quelli che scrivono minacce sui muri. Quelli che minacciano i giudici. Ma no, è chiaro, non è chiaro per niente. Perché invece. Invece è chiaro, perché tu l'hai già detto e lo stai ripetendo. Ho capito, ma non è chiaro perché sono coperti anche dagli altri. Spesso qualcuno dice. Sì, beh, certo, condanno la violenza, però poi alla fine la TAV fa danni pazzeschi, dunque è legittimo protestare, c'è sempre un ma di troppo, hai capito? Sì, però per ripetere questo argomento, tu ometti invece una serie di considerazioni importanti che stanno attorno al movimento No TAV. Sì, ma non, quali considerazioni? Che il movimento No TAV è in grado di polarizzare una parte della comunità che non è solo contro la No TAV, ma è proprio contro una modalità di vita che tende a sprecare le risorse, che pensa soltanto nella crescita tecnologica, nella crescita economica, eccetera. Senti Alberto, a me di questi discorsi che riguardano la TAV, la No TAV, mi può anche interessare fino a un certo punto però, Cioè è stato deciso che questa dannata TAV si fa o comunque si prova a farla, punto e basta. Se tu ti metti a distruggere un cantiere con le armi o ad occupare le strade fino all'infinito perché vuoi bloccare la TAV, vai preso e arrestato, punto e basta. Io con i violenti. Io voglio parlare di un'altra cosa. Ma non mi interessa il discorso TAV o no TAV, è vecchio. Già si sanno le tesi da una parte e dall'altra. Governi hanno deciso, punto e basta. Ma non sto dicendo questo. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che attorno al movimento no TAV si sta creando un gruppo di discussione e di critica. Vabbè. Su un'altra cosa. Lascia perdere la TAV. La TAV rappresenta un pezzettino. I valligiani della Val di Susa che vivono in Val di Susa, che hanno fatto delle scelte di vita diverse, sono loro che stanno difendendo il loro territorio, ma non dalla TAV, stanno difendendo il loro modo di vita. Sì, vabbè, certo. Ma cosa vuol dire? Ma non lo so, cosa vuol dire modo di vita? Non vale gli stambecchi, cosa stanno difendendo? No, ma poi non capisco cosa c'entra con la vicenda di Esposito. Nulla. Cosa c'entra, scusi, con la vicenda di Esposito? Da parte la TAV, chi se ne fotte della TAV? Vabbè, c'è una persona che è stata minacciata di morte. Gli hanno fatto trovare sotto casa delle bottiglie Molotov. Questo è. Non c'è altro. Difendere nessuno stile di vita, nessun mito del buon selvaggio, nessun treno, nessun'altra. Nulla. Salvatore, questione. Vabbè, Salvatore, provincia di Venezia. Dai, adesso non mi va di parlare degli stili di vita, la terra, la Val di Susa, cioè. Salvatore, provincia di Venezia. Eccomi qua. Ciao Cruciani, per favore mi puoi far parlare con quel Caprone di Parenzo? È qui. Caprone che non sei altro, visto che sei così. Come si chiama questo? Pronto, mi senti? Sì, qual è il nome di questo? Sì. Come si chiama? Salvatore, certo. Allora, siccome io sono un disoccupato, ho due figli, ho lo sfratto, questo mi puoi per favore ospitare a casa tua, visto che sei così ben voluto di tutti gli extracomunitari e dalla gente? Non sono ben voluto da nessun extracomunitario. Sì, certo. Ho detto che gli immigrati che stanno qui, al pari, perché non ci sono italiani immigrati, noi, loro, ci sono persone che hanno bisogno, tra cui lei ovviamente che ha bisogno, quindi non c'è da far distinzioni, perché chi ha bisogno va aiutato, punto, capito? Non è che c'è la guerra tra poveri. Sai qual è la differenza invece? Io che sono italiano non vengo aiutato dai servizi sociali, dagli signori, da darmi la casa popolare. E la soluzione è quella di prendere a calci gli immigrati? No, la soluzione non è quella di prendere a calci, è di smettere di fare il buonismo. Ma quale buonismo? Vada nella città dove sta. Ma non sono buono per niente. Tu sei un padovano, conosci benissimo. E Vianelli, te la ricordi Vianelli com'era combinata, vero? Vabbè, sì, ma questa qui non è Radio Padova, con tutto rispetto per Radio Padova, se Vianelli, via Bubù, io ti sto dicendo, tu sei padovano e sai benissimo la situazione degli immigrati qual è. però la nostra situazione è peggio di quella degli immigrati, perché noi il passaporto non ce l'abbiamo per stare in Italia, capito? E la soluzione è quella che devo prendere io le persone a casa mia, cioè no, questo è l'argomento. La soluzione sai qual è? Forse come quella che ha detto quell'altro cretino che ha telefonato, che ha detto che ne prendono due che vogliono lavorare, ne mandano quattro terroni dall'altro lato. Un attimo solo, un attimo solo. Rizzo di Ascatasuna, parla tu. Ah, ok, sì. Moderati, no? Liberali. Mai che chiamiamo la fondazione Einaudi, ad esempio, no? Ascatasuna. Parla tu così possiamo cercare me, no? Beh, certo. Ho capito. Risponde la segreteria telefonica di... Va bene, Salvatore è andato, Roland Modena. Ti do un altro numeretto allora. No, sì, no. Pronto. No? Sì. Mi sente? Dimmi, dimmi. Allora, no, niente, io volevo parlare del modo stamina. Sinceramente a me pare un po' anomalo il fatto che molte persone, o alcune persone per fortuna, non molte, abbiano cambiato totalmente la versione di come stavano le cose, infatti in un verso, mi sembra veramente anomalo. La cosa che mi viene da ragionare sinceramente è sulla grande potenza che detengono le case farmaceutiche, comunque chi sta dietro a tutti i brevetti farmaceutici. Sì, guardi, la potenza delle case farmaceutiche è abbastanza nota, però o c'è la scienza ufficiale che passa attraverso certe sperimentazioni, oppure c'è il caos, questo è il punto. Ok, il ma caos. Io le faccio un altro esempio. Ha capito? Perché o magari c'è, in modo o, c'è no. o si percorrono delle regole precise, verificate in anni e anni di sperimentazioni. Non è che le fanno le case farmaceutiche cattive, le fanno pure medici che sono indipendenti dalle case farmaceutiche, ce ne sono. Ma se lei non si fida di queste cose, faccia da solo, senza soldi pubblici, faccia da solo, vada, che ne so, in a Kathmandu e si faccia curare con le erbe. Chi ha la possibilità, chi invece non, chi non ha la possibilità, si faccia curare dai maghi, non lo so, dai maghi da altri, si faccia curare dai maghi. C'è Otelma che si sta laureando ancora, si può andare da Otelma. Aspetti un attimo, se vogliamo mettere sullo scherzo va bene, ma qua si parla della vita delle persone e si parla della salute delle persone. Appunto. Io le faccio un altro esempio che tocca delle persone a me molto vicine e care, che sono portatrici di pacemaker, che si avrebbe la possibilità di caricare le pile in maniera automatica senza doverle operare, ma a causa di tutti i benefici che invece dall'operazione, da queste cure diciamo molto dispendiose, le case sì, però perché adesso lei parla di cose non si fa fare. Va bene, d'accordo, adesso lei parla di cose che io non conosco, caro Roland. Lei si fiderebbe, lei porterebbe, andrebbe da Vannoni e da Andolina a curarsi con il metodo stamina, porterebbe i suoi figli lì, sì o no? Sì. Sì. Sì, benissimo, ci vada pure, basta che non paghiamo noi, ci vada. Per fortuna, io le dico, io per fortuna non ho questi problemi, ma io ci andrei. Parliamo di persone che comunque sono in una situazione molto molto grave e che comunque... Ma certo, vada, se vuole andare... Ti hanno detto che non è che fa male. Se vuole andare, a parte che non è vero, a parte che non è vero, cioè, in alcune inchieste si dice anche che fa male, ma a parte questo... Beh, detto che la quantità di stamina che viene dato comunque di cellule è sufficiente per un topo, quindi... Sì, ma la cosa importante è che se lo paghi lei e non con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale, dice l'acuto Cruciani questa volta. Ma ci vada, ma vada dai maghi, faccia quello che vuole, Francesco da Pescara con delle ortiche, no, vada al divino, il divino Telma magari è una cura anche per lei. Ecco, bravo, ci mancherebbe altro che il divino Telma diventasse mutuabile, ma questo sarebbe terribile, no? Le sedute del divino Telma mutuabili, che uno dice poi se le fa rimborsare dallo Francesco Stato. Francesco da Pescara. Sì, pronto, buonasera. Io intervengo perché volevo dire che secondo me sia lei che Parenzo sbagliano su un concetto che lei ha espresso sulla TAV. La legge si è stabilito che bisogna fare la TAV, se il Parlamento ha stabilito che bisogna fare la TAV, non è detto che il cittadino la debba accettare per forza, premesso che la violenza va condannata sempre. Se no, Martin Luther King che dovrà fare? La legge sulle razze? Cioè, perché secondo lei fare la TAV è una cosa razzista? No. Fare la TAV è paragonabile, alle leggi razziste? Che cosa? No, non è paragonabile. Fare un treno? No, il concetto è quello, se posso esprimerlo. Cioè, uno che va contro la legge esprime il massimo rispetto della legge se poi è disposto a pagare il prezzo. Cioè, se io devo andare in galera perché la legge, perché secondo me la TAV non è giusta e sono disposto a pagare le conseguenze delle mie azioni, chiaramente senza violenza, perché la violenza tra parentesi, ma lei, anche... in Italia c'è la libertà di manifestare, di fare quello che uno vuole, lei può manifestare in piena libertà, no, mille però volte dice, no, purtroppo però sì, sicuramente, però lei dice no, la TAV si deve fare e basta, questo è un concetto che una democrazia non è accettabile. Ma non è che si deve fare e basta perché paese... lo decido io, ma che vuol dire? No, l'hanno deciso governi su governi di centrodestra, di centrosinistra. Ma siamo un paese governato da nessuno, governi di gente non votata. Sì, di gente non votata, la solita storia di gente non votata. La solita storia, ma la verità, mi spiace. Manco quelli di Grillo, volendo, sono stati votati. Su, ma io che anche lì liste bloccate. Io non sono grillino, io sono una persona libera, spero, nei limiti del possibile, esprimo le mie opinioni. Chiaramente, quindi non sono un grillino. A parte che la TAV è stata votata anche da governi quando non c'era il ma questo può darci, sicuramente, io posso anche sbagliarmi. Va bene, Adriana da Treviso. Sì, buonasera. Io volevo ancora parlare del metodo Stamina e volevo dire che la faccia tosta di chi lo propaganda veramente è senza fine, perché queste persone vanno fermate proprio perché c'è tanta gente, come un ascoltatore che ha parlato da poco, che è convinta che queste cure possano far bene. Io le potrei citare... Un attimo. Sì. Perino, ciao Parenzo. Senti, Perino, aspetta un attimo solo però, Perino. Sì, no, ho capito, sento che sei riunione, volevo dirti questa cosa. Questa roba delle... Ma in che riunione c'è? La TAV si fa? Adriana da Treviso. Adriana, allora... Non c'è riunione da fare. Pronto, non ho capito se posso parlare o meno. Sì, sì, dica. Sì, le volevo dire che queste persone vanno fermate proprio perché c'è tanta gente che crede che per magari strani complotti delle società farmaceutiche vogliono fermare questi benefattori dell'umanità e poi si affidano a queste persone con drammi. Io gliene potrei raccontare una, per esempio a Padova un ragazzo di 15 anni ammalato di un linfoma di Hodgkin, che è perfettamente curabile oggi come oggi con le cure tradizionali. Cure tradizionali che però a volte sono dolorose perché ci sono... Vabbè, allora? Ecco, e questo si è affidato ad un lestofante, il quale ha detto: io ti curo senza farti soffrire. La famiglia ovviamente, per amore del figlio, ha ceduto a questa idea romantica, il ragazzo quindi è stato curato con cure non tradizionali ed il ragazzo è morto. So che c'è una denuncia fatta proprio dai medici dell'ospedale di Padova che hanno verificato questa cosa. Allora voglio dire che è estremamente grave che il nostro paese permetta a gente come quella di propagandare questo metodo. Noi stessi ne stiamo parlando tanto. Inoltre ha una bella faccia tosta dire che a Brescia i pazienti sono curati gratuitamente, perché in realtà sono pazienti curati con i soldi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, certo, che per pagare queste fantomatiche cure magari deve aumentare i ticket oppure far rinunciare a persone che veramente... Va bene, Adriana, grazie. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao. Why don't you go? Che dolce che è Minzolini, sembra. Non mi moleste moschito. Claudio da Bari, buonasera Claudio. Ciao, buonasera ragazzi, complimenti. Dimmi. Perché non riesco a togliere l'orecchio dalla radio pur odiandovi. Volevo fare una critica a Parenzo però, del suo bigottismo, sì, di sinistra, nel senso, sì, che se lui fosse stato nel 600, uh-huh, senza sapere nulla di astronomia, avrebbe contribuito al tribunale contro Galileo. Io penso questa stronzata che come la partorita? Pronto? Sì, questa stronzata come la partorita? L'ho partorita perché non è... Cioè, voglio dire, è facile sparare sul pianista Vannoni adesso. Aspettate un attimo, lei non sa nulla di biologia. No, infatti io mi fido di chi ne sa, cioè dei medici. No? E infatti io mi fido dei comitati scientifici e dei medici. Ma lei si fida un po' troppo, esattamente come si sarebbe fidato della commissione inchiesta contro Galileo? Il paragone è un po' azzardato, visti i tempi, un po' azzardato. Perché? Diciamo perché il paragone. Qual è il motivo per cui è azzardato? Perché viviamo in un altro contesto, diciamo, no? viviamo in e un altro contesto. E quanto difendono questi comitati scientifici? Io preferisco curarmi secondo i protocolli stilati dal Ministero della Salute e dalle commissioni speciali. Ma anche speciali. Io, se lei, ma lei allora non mi rompa la scatola. Se lei invece preferisce farsi altre cure, se le fa e se le paga. Per me può andare anche da Vanna Marchi se lei cure, vuole. Sto parlando non della sua problema. Apertura mentale. Ma io che c'entro? Cioè, io mica dico di non fare. Come lei non dovrebbe ma essere un po' c'è? Più aperto alle ma novità? Aperto a che cosa? Aperto a cosa? Alle novità scientifiche. Ma le novità arrivano. Devono essere tutte certamente le novità scientifiche e infatti, dal nulla. Ma infatti nessuno ha detto che questa sperimentazione non deve essere fatta, deve essere fatta seguendo delle regole, però, hai capito? Va bene, però doveva avere un po' più di pazienza col signor Vannoni, perché sparare col tenista per voi che c'entra la sinistra? Ma cosa è c'entra la sinistra? È diventato un po' troppo facile. Ma perché mette in mezzo la sinistra sua, che non c'entra Parenzio. Proprio nulla? Sì, ma in questo caso da destra alla sinistra non c'entra nulla. Giuseppe da Rimini, buonasera. Lei difende l'establishment. Sì, vabbè. Giuseppe da Rimini. C'è quel signore che paragonava Galileo a Vannoni. Le commissioni avevano condannato Galileo perché si basavano sulle sacre scritture, la Bibbia, nulla di scientifico, ma non era di questo di cui volevo parlare, volevo dare una tiratina di orecchie, perché lei ha fatto una bella intervista a Vannoni, bella lunga, ma sono giorni, settimane che lei non intervista un medico, non intervista. Senta, questa non è una trasmissione di informazione, ha capito? Non è una trasmissione di approfondimento, ha capito? Ascolti, sì, ho capito perfettamente. E allora, se lei l'ha capito, non siamo facendo così. Non c'è l'approfondimento su Stamina, non ce ne può fregare meno. Non è un approfondimento, è semplicemente che dando il megafono a questa problematica e marciandoci un po' sopra con la polemica, diamo delle false informazioni a persone che sono afflitte da tratti. Ma figuriamoci se le diamo noi le false informazioni, abbi pazienza, non è quello il punto. No, dai. Si dà la stura. Si fa una informazione non corretta, secondo me, perché basterebbe un medico qualsiasi che in tre minuti le distrugge tutto quello che Vannoni mi si dice, che tra l'altro non è un medico. L'avete detto che non è un medico? Ma sì, l'abbiamo detto mille volte. L'avete chiamato professore, ma professore di cosa? Tutti laureati, questo magari è laureato in scienze politiche. Sai quanto ne sa di Stamina? Lo sai che quel materiale che infondono a quei bambini, non ho nulla contro gli ucraini, ma è stato prodotto da due biologi ucraini che l'hanno portato in Italia e l'ha commercializzato il professor Vannoni, sulla ignoranza delle persone, sulla disperazione. Quindi bene, abbiamo registrato la sua posizione al metodo Stamina e a Vannoni. Quando la tandarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho si no pensa. Il nostro amico Mandarà. Che fine fa il signor Mandarà? Ha intervistato di recente un tizio che si chiama Amodeo. Ma intervista. Forse è venuto pure da noi. Cantante Fausto Amodei. Un consulente finanziario che si chiama Amodeo. Ho capito. Il quale sostiene che dietro la nascita dell'Europa ci sono i servizi segreti. Ho capito. Senti. Mandarà. Esistono documenti governativi americani resi di dominio pubblico, quindi desegretati, che mostrano che i servizi segreti americani condussero una campagna negli anni 50 e 60 per dare impulso ad un'Europa unita, finanziarono e diressero il movimento federalista europeo. L'Europa, ma aspetta, l'Europa è la creazione della CIA, dati incontrovertibili. Ma credo sia il contrario, cioè l'Europa era con l'America era no, contraria. No, ma aspetta, ma questo non lo so, ma non mi interessa, senti. In pratica abbiamo visto che i fondatori dell'ACUE, che è stata la culla dell'Unione Europea, erano tutti uomini dei servizi segreti americani. E quindi l'integrazione europea è stata una creatura del Dipartimento di Stato e della CIA. Questi sono dati incontrovertibili. Capito? Scusami, mi ripeti chi è questo signore? Si chiama Amodeo. Chiedo scusa, chi è questo signore? Si chiama Amodeo. Signor Amodeo, ti dispiacerebbe andare a fare in culo. Amadeo? Amadeo? Ti piacerebbe andare a fare in culo? Caro Amadeo, tu e anche i servizi segreti. Ma vuoi mandare a fare in culo anche Mandarà? Che lo ha intervistato? Ha fatto questa intervista esclusiva, mi pare, no? Mandarà. Ma come l'ha trovato questo qui? David? No, no. No, in questo caso no, amico mio. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? No, no, no, non io. Questi compro di uno va su Google, no? Così David si andrà a fare non così. Cercava di fare lo stupido. Eccolo qua, mucchi il giudizio di quei cani. A proposito di Grillo, io farei risentire però una cosa molto forte, cioè Grillo che oggi ha ricevuto un mezzo schiaffo perché i suoi pseudo elettori sono poche migliaia. La rete si è ribellata, dai. Ma la rete, ma sono quattro gatti, comunque, vabbè. La rete che cosa ha detto? Ha detto che non vuole il reato di immigrazione clandestina, perché poi alla fine i militanti che stanno in rete di Grillo sono tutti di sinistra, mentre Grillo e Casaleggio, come sentirete fra poco dalle parole di Grillo, tutto sono tranne che nel mainstream, non sono politicamente corretti e addirittura pensano che con i clandestini bisogna usare la mano dura, come nel caso di Grillo. I loro militanti online, beh, sono un po' diversi. Dunque male hanno fatto a promuovere questa buffonata per prendere una decisione che doveva essere presa dai loro deputati e senatori. L'hanno affidata alla rete. Questo Grillo, cosa ne pensa lui dell'immigrazione clandestina? Se i marocchini vengono qua a rompere i coglioni, a ubriacarsi, a rompere vetrine, o vengono qua e rispettano le regole, sono fuori dai coglioni, io sono esattamente... ma no, momento! Però, vuoi dare una passatina a un marocchino che rompe i coglioni, lo prendi, lo carichi in macchina, senza che ti veda nessuno, lo porti un po' in caserma e poi gli dai magari due schiaffetti, lo fanno, tanto lo fanno. Ma in mezzo alla strada non è possibile! Oggi con un telefonino fanno succedere un casino, l'immagine di quel telefonino lì è andata a un miliardo di musulmani! Sono coglioni! E li vedevano col telefonino! Se uno vuole dare una ripassatina a qualche marocchino, come dice lui, catalogandoli tutti sotto i marocchini, no? Come si fa nei bar? Va benissimo, per carità, perché almeno la gente capisce. Beh, non bisogna farsi vedere, dice Grillo. Più o meno è la stessa cosa che diceva. No, che diceva quando qualche mese fa. Beh, se avessimo proposto il reato di immigrazione clandestina non ci avrebbe votato nessuno durante le elezioni, eh? Scrisse Grillo sul blog, ti ricordi? Come? Per puro opportunismo elettorale. Ma opportunismo, perché questo. Come lo si chiama? Uno deve avere una linea. Uno deve avere una linea su queste cose. Opportunismo elettorale. Senti, Severgnini si rivolge a te. Sono patetici i nostri coetanei che si fumano le canne. Beh, non a me direttamente. Beh, avrai 10 anni di meno, uguale comunque. Siccome tu tra 10 anni. Aspetta, Severgnini, scusa. Siccome tu 10 anni. Ma tu sai quanti anni ho io? Vabbè, ma comunque tu ti fumerai le canne anche a 50 anni. Ma spero di arrivare, certo che sì. E appunto, dunque, sono patetici i nostri coetanei che si fumano le canne. Però devo dire la verità, perché sono patetici? Caro Severgnini, perché dovrebbero essere patetici? Trovo anche abbastanza patetico vedere i coetanei, i nostri coetanei che fanno i giovanotti e quando sono insieme alla sera si spazzano i capelli bianchi o l'assenza di capelli e tirano fuori la canna per sentirsi ventenni, fa un po' pena. Non è che uno si vuole sentire ventenni, magari ci sono dei cinquantenni, dei 52, 53 anni, se non di più, che vogliono semplicemente farsi una canna perché gli piace, appunto, no? Non perché, pensa così, ma non fa. Perché si vogliono sentire più giovani, semplicemente perché qualcuno anche sì, magari, ma Antonio da Ginevra, buonasera. Da Ginevra addirittura? Sì, Antonio. Sì, buonasera. Dimmi. Sì, bene, senta. Senta, volevo intervenire sulla polemica su Giudone, perché io l'ho seguito spesso, sono andato spesso ai suoi spettacoli. Sì. E devo dire che Giudone, penso che a lei piacerebbe molto, perché è un umorista che ama lo humor nero e cinico, però attacca tutti nei suoi spettacoli, attacca i musulmani, attacca i neri, attacca gli ebrei, attacca gli omosessuali, attacca i politici, attacca tutti quanti. Non attacca solo gli ebrei. Ma questo infatti non è che cambia la mia posizione, No, no, e beh, non è che no, migliora, perché vuol dire è qualcuno che fa del humor nero, cinico, che va un po' al parossismo. Però è quello che è il lavoro che deve fare un umorista con un po' di carattere, insomma. No, se c'è, per me, se c'è una satira che incita all'odio e lavora sugli stereotipi più biechi, sia essa contro gli ebrei, sia essa contro i cruciani, sia essa contro chi vuoi, contro i rom. Ma tu chiuderesti pure la zanzara dentro di te. Però nella comicità comunque esiste sempre uno stereotipo su cui uno lavora, se no non lui appena sente la parola ebrea non ci vede più, per cui qualsiasi cosa che riguarda la libertà di pensiero, che riguarda la libertà di pensiero, tutt'altro, di spettacolo, eccetera, tutt'altro. Cade quando si parla di ebrei. Tutt'altro. Lì è tutto finito. Lì ho è tutto appena finito. Detto anche sui rom, tutt'altro. Lì è ma tutto tutt'altro. Finito. Ho detto anche senti, sugli il signor Diedonné può essere anche il peggiore cosa che non è, il peggiore neonazista, neofascista, il peggiore propugnatore delle idee antisemite, posso eccetera. Libero di dire il che non mi Diedonné, fa ridere uno che fa la. Non la, ti fa ridere, lo, lascia le persone il saluto ridere. Romano. Lascia, a parte che non che fa il saluto romano, fa un altro gesto. Invertito. Invertito. Non mi interessa, devi avere il diritto di farlo, hai capito o no? Il diritto di farlo, il diritto di farlo, sì. Ma chi ha detto? Tu quando senti questa cosa non ci vedi più alla violenza, non ci vedi allo... più. Ma sì, perché se è una cosa che incita alla violenza e all'odio, so certo, perché non è più satira. Ma non è nessuna violenza, nessun odio. Ma come no? Tutto c'è un umorismo anche che incita all'odio dico, alla anche violenza. Io che dico che ci vogliono le torrette, ci vuole il reato di immigrazione clandestina, potrei essere uno che incita all'odio allora, da questo beh, punto di vista. Questa è una posizione per me e allora va chiudiamo bene, la non zanzara, è che fa ridere, chiudiamo fa la ridere. Zanzara, chiudiamo un la altro zanzara, discorso, dai, un altro su. Quando si toccano dei livelli più bassi ma, come ma chi quelli lo giudica? Di chi lo giudica? Ma chi lo giudica? O la Francia improvvisamente ha perso il principio volteriano del difendere anche tu che hai idee diverse dalle mie, o la Francia, patria di questo, ha perso quel viva principio. Viva Diedonné, viva la satira libera. Ma la Francia libera, è il paese dei diritti, viva è il paese... Diedonné, viva Diedonné. Ma diglielo ai prefetti, diglielo ai prefetti che hanno chiuso lo spettacolo. E scusa, lo voglio qui in Italia, lo voglio qui in Italia, lo voglio Giuseppe, qui in Italia. Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio qui bene. In Italia, vicino pure a, magari vicino a una sinagoga. Un bel teatro vicino alle sinagoghe. Sì, che Paolo, venga pure. Paolo che da Massa. Venga dietro me, venga, vada, venga Italia. Pure, venga in Italia. Gli facciamo il regalino. Ma poi. Che regalino? Venga, sempre venga. La libertà. A portare il suo parlate di libertà. No, parlate di libertà. No, parlate chi? A titolo personale. Alla cazzo non di c'è, cane, dai. Non c'è libertà se c'è odio. Ma questo non è il punto. Dire stupidaggini. C'è è al odio, contrario. È al contrario. C'è odio, la libertà consente ante odio. La libertà è talmente grande, talmente più forte di Diedonné che si può permettere. C'è l'odio, no, che si può permettere di accogliere anche l'odio. Io so che tu sei d'accordo, anche ma siccome i paesi democratici siccome fai parte della grande famiglia ebraica, non lo puoi dire. Ti rendi conto che stai alimentando una stupidaggine? Non lo puoi dire. Ma io posso dire quello che mi pare, perché ci sono tra l'altro molti ebrei, come avrai visto, che sostengono il meno diritto male, alla comicità. Certo. Quindi non è vedi che questa idea di fare un io la penso personalmente così. Viva Diedonné, viva Diedonné. Sì, Massimo casa, da Firenze. A casaccia sua, a casa sua fa il suo spettacolo. Anzi, Antonio, voglio sua. Sentire ancora Antonio da Ginevra che ne pensa. No, non c'è più. Massimo da Firenze. Ci sono, buonasera. Dimmi. Allora, io premetto, intanto non fate fare le canne a Parenzo perché è già di fuori di suo. Perciò. Poi io ho telefonato a Parenzo per dirgli questo. Sventolare ai 420, il fattore di dare case, non è un incitare le persone qua a incazzarsi, Parenzo? Non ho capito. Di fare del bene, stai andando sventolando che va dato la casa prima agli extracomunitari, non da mangiare agli extracomunitari, a chi ne ha diritto? Lei non ha sentito. Vuoi fare il provocatore o vuoi fare la persona ho detto seria le case a chi ne ha diritto, non prima. No, perché no, sei no, fermati Parenzo, non fare il campione con me. Allora, io te lo spiego. No, lei non scherza come io ho detto che chi ha diritto deve avere la casa, fine. Sia esso di colore, rom, sia esso italiano, di Varese. Un attimo, sentiamo Mollica se ci risponde su. Vincenzo? Ciao, siamo quelli della Zanzara, Cruciani e Parenzo. Scusa, ciao Vincenzo. Sì, scusami, devo pigliare un tassi, scusami tanto. Ti posso chiedere una cosa, perché ci ha chiamato un signore che si presenta, no, se è vero o no, che si presenta come tuo cugino. Come si presenta, scusami? Come tuo cugino, dice che tu non lo chiami, è una cosa incredibile che ci è come successa la settimana scorsa. Aspetta, si chiama un signore che ci ha chiamato in diretta alla radio, Gino. Primo cugino di Vincenzo Mollica, ha detto. Ciao, intanto vi saluto, buonasera che vi seguo. Ciao Vincenzo. Ma è ciao, vero o non è vera sta cosa? Perché no, ci ha chiamato. Io non ho nessun cugino, poi mi possono trovare tutti perché c'ho un numero più antico della terra. Appunto, lo so, è per se questo. Mi chiamano al centralino, mi trovano facilmente, quindi proprio non hai cugini che si chiamano Gino, Vincenzo? No. Uno che dice io lo fagli sentire la voce, magari lo riconosce. Vediamo se no, no, no, no, guarda, io proprio cioè, essendo io sono figlio unico e i miei parenti sono negli Stati Uniti. Sì. Quindi i primi cugini non esistono. C'è neghi che esiste un cugino che ti fagli cerca, ti lascia il telefono e tu non lo richiami. Vabbè, che dobbiamo fare? Vediamo se riconosci la voce. 30 secondi, senti, guarda, poi, la voce poi ti lasciamo. Se, se, non, è matto, se non è vero, chiudiamo la faccenda. Appunto, un attimo, Gino, fammi sentire. Molli che è mio cugino. E perché è uno stronzo? Che male ha fatto? Che ha fatto di male? Perché lo cerco da una vita per raccontarle la mia vita, cosa mi è successo. E non si fa trovare. E perché non si fa trovare? Perché è un coglione, perché è un, adesso, è perché è un laureato. Lo sai cosa dicono qua in Liguria? Quando la merda monta un skate, a spessa. Non mi mordere il dito. Allora, Vincenzo, scusami se ti abbiamo disturbato questa cosa, ma. No, va tutto bene, lui può pensare quello che vuole e dire quello che vuole, ma è una persona che non conosco. Grazie. Ciao, Vincenzo. Siete stati gentilissimi, ciao. Ciao, ciao. Ciao, caro, ciao. E non mi mordere il dito. Adesso sto Gino, ciao. Comunque, è grande scoop questo, eh. Cioè, qual è lo scoop? Domani scusami, vedo già l'apertura del Corriere. Ma qual è lo scoop? Gino non è parente di Mollica. Scoop della Zanzara. Non mi secchi, non si seccarmi. Vabbè. Marco da Lucca. Volevo parlare con quel nano che ha lì a fianco, il nano Parenzo. Chi è questo? Come si chiama? Marco. Il nano Parenzo, sì. Sì, sì, quel nanetto. Allora, a parte dovreste tutti rendervi conto che va ricollocato in questa radio. Cioè, non ci può stare la Zanzara, lo stava dicendo lei due minuti fa, Cruciani, questo non c'entra un cazzo con questa trasmissione, dovrebbe andare a Focus Economia, visto che la nomina spesso. Lì sono tutti bravi, lì c'è il politically correct, spostatelo lì. Non se ne può più del suo buonismo di merda. Parenzo, basta. Il buonismo di Parenzo, vabbè, che bisogna fare? No, ci ha proprio rotto le palle. Quando lui prende per il culo, lui può fare quello che cazzo gli pare. Lui può prendere per il culo donna assunta almirante col busto che appare e scompare. Poi arriva il cabarettista che prende per il culo gli ebrei, si incazza. Poi dopo criticano la Chienghe, come ha detto prima, nome, cognome, carta d'identità e anche un passaggio in questura. Sì, per cosa? Certo. Per fare cosa? Nel tuo mondo di polizia e di processi, nel mio mondo ma di libertà, polizia, un passaggio processi in questura un paio di cazzi. Senti, se uno mi offende, io no, tanto non ho mai fatto querela di quelle che ho minacciato. Ha ragione, non ho Marco mai fatto querela alle persone che hanno minacciato e che insultano, non l'ho mai fatto. Primo. Ha ragione, perché non Secondo, si può manifestare contro la Chienghe. È legittimo Gino manifestare contro la Chienghe, ma insultare come in tutti i paesi, no. Ci sentiamo domani. Dov'è Gino? Non riesco a togliere l'orecchio dalla radio pur odiandovi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ah dai, hai bevuto stasera? Vabbè, puoi bere ogni tanto, dai. Radio 24. La passione si sente.